Come giudicare? Vivere è difficile. Convivere lo è ancora di più. Anzi, convivere con alcuni sembra proprio impossibile secondo ciò che è scritto. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani mezzogiorno 18. Vivere in accordo con tutti non è dunque sempre possibile. Qualsiasi rapporto che non sia vincolato da una legge si può evitare, ma una relazione, come per esempio quella matrimoniale, se non è armoniosa, si trasforma in un inferno. Ma il vincolo matrimoniale in fondo si può anche sopportare, perché nessuno ci ha obbligati a scegliere quella persona, l'abbiamo scelta noi. Però, quando entriamo nell'ambito fraterno, la situazione cambia. Nel momento più brutto della nostra vita, quando ci siamo resi conto di essere irrimediabilmente perduti, abbiamo invocato Dio in Gesù Cristo per ricevere il perdono dei nostri peccati e ottenere la vita eterna. Da quel giorno siamo diventati figli di Dio e siamo stati introdotti, con nostra sorpresa, nella grande famiglia di Dio. I fratelli in fede, quindi, che ci sono stati donati da Dio, non li abbiamo scelti noi. E, vero che vi sono altre situazioni nella vita dove i compagni di viaggio non li abbiamo scelti noi, come i genitori e i colleghi di lavoro, ma mentre con i genitori vi è un vincolo di debito e con i colleghi di lavoro un comune interesse, non è così per la comunione fraterna. Non ci sono vincoli o interessi umani che ci uniscono. Questo fa sì che quando sorgono difficoltà, incomprensioni, conflitti, nell'ambito della comunione fraterna, la convivenza si trasforma in un peso insopportabile. Inoltre, anche senza conflitti aperti, all'interno di una comunità, vi sono persone diverse da noi, per età, cultura, carattere, estrazione sociale, il che rende ancora più difficile la convivenza. Non vi è credente che prima o poi non si sia posto la domanda chi me lo fa fare di convivere con questi credenti, per cui potrebbe anche svincolarsi da questo legame. Ma il suo rapporto con Dio l'obbliga per amore a rimanere inevitabilmente fra i suoi fratelli nonostante tutto. Chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. 1 Giovanni 5. 1. Questo atteggiamento lo distingue dai figli di Satana, cioè da coloro che non hanno sperimentato la nuova nascita, come è scritto. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. 1 Giovanni 3,14. La convivenza fraterna è dunque uno degli aspetti più delicati che esistano. Non a caso, nell'immagine della Chiesa come corpo, la comunione fraterna è paragonata alle giunture. Un'articolazione debole e sofferente impedisce ad un corpo di muoversi in armonia. Dopo il matrimonio, la comunione fraterna è uno dei legami più belli e più forti e, come ogni altro legame, essa deve essere conservata, protetta, custodita, alimentata. Nella casa di Dio non possiamo fare ciò che ci piace, perché ci è una legge ben precisa che regola i rapporti fra coloro che sono stati accolti da Dio. Da ciò che leggiamo nella Scrittura riguardo ai problemi che avevano i primi cristiani e dalle nostre esperienze della convivenza fraterna, comprendiamo come sia difficile mantenere un buon rapporto cristiano. Le ragioni dei conflitti fraterni sono tanti: offesa, maldicenza, incomprensione, avarizia, gelosia, invidia. Ma spesso la ragione fondamentale che è a monte di ogni problematica è il modo in cui noi giudichiamo i fratelli e i fatti della vita. Proprio per questo trovo indispensabile affrontare l'aspetto del giudicare con l'intenzione di aiutare ciascuno di noi a migliorare e fortificare la comunione fraterna. Quando i figli di Dio sono uniti, hanno a loro disposizione un potenziale immenso. Gesù disse: se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Matteo 18 e 19. Se prendiamo sul serio questa promessa, significa rivoluzionare se stessi, la Chiesa e il mondo. Pensate, una coppia, due di voi, o una chiesa, o tre, se sono uniti, possono domandare una cosa qualsiasi, e quella gli sarà concessa dal Padre. Non possiamo certamente negare che sia gli sposi cristiani sia la Chiesa non preghino. Non possiamo neppure sottovalutare che sia gli sposi sia la Chiesa non realizzano ciò che ha promesso Gesù. Perché? La risposta è semplice. Non vi è armonia, accordo. È vero che vi sono tante ragioni perché Dio non risponde, e una di queste è certamente il disaccordo. Quando si afferma che una chiesa o una coppia non sono unite, non ci si riferisce necessariamente al fatto che abbiano dei conflitti laceranti all'interno, o che i membri di una chiesa o gli sposi si facciano guerra aperta ogni momento. Vi è divisione, per esempio, quando si prega per lo stesso soggetto, ma non per gli stessi motivi o obiettivi. Una chiesa e una coppia di sposi sono uniti quando le preghiere concordano, sia nei soggetti sia nei moventi. Una coppia di sposi può pregare per la commissione di un figlio drogato. Ma, mentre un coniuge desidera la sua conversione perché il nome di Dio sia onorato, l'altro può pregare perché si vergogna di avere un figlio del genere. I moventi sono diversi. E non solo. Si può pregare insieme e non condividere il contenuto di determinate richieste. Un giorno, mentre pregavo con mia moglie, le dissi: «Ti ricordi quando abbiamo pregato per Giacomo?» Non avevo terminato la frase che lei mi interruppe dicendomi: «Tu hai pregato», intendendo con questo la sua estranierà alle mie preghiere. Pregavamo insieme, ma evidentemente lei non condivideva o era estranea a certe mie preghiere. Una chiesa prega perché desidera evangelizzare. Mentre un fratello prega perché Gesù Cristo sia conosciuto, amato e creduto, un altro prega perché vuole semplicemente essere attivo. Un altro ancora prega perché vuole dimostrare il suo zelo e le sue capacità. Un altro per dimostrare che la Chiesa alla quale appartiene è più spirituale di un'altra. La Chiesa è unita per quello che riguarda il soggetto, ma divisa negli intenti. Anche al tempo dell'Apostolo Paolo c'erano delle persone che predicavano l'Evangelo, ma la loro motivazione era ben diversa. I credenti sono persone ricche, ma molti di essi vivono da poveri, come sta scritto. È chi si comporta come un ricco, ma non ha nulla. È invece chi si comporta come un povero, ma ha molti beni. Proverbi 13:7. Leggiamo nella parola di Dio questi due imperativi di Gesù. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, Luca 6:37. Giudicate secondo giustizia, Giovanni 7:24. Siamo di fronte a due affermazioni di Gesù apparentemente contraddittorie, e spesso i credenti le usano come pretesto per appoggiare le loro opinioni. È chi dice che non bisogna mai giudicare, basandosi sul versetto di Luca, e chi sostiene la necessità di giudicare basandosi sul versetto di Giovanni. Le nostre reazioni a ciò che Gesù ci ha comandato possono essere diverse. A. Supponiamo che Gesù si sia contraddetto. B. Pensiamo che siano due verità che non siamo in grado di conciliare. Cerchiamo di comprendere che cosa voleva dire Gesù. Che Gesù si sia contraddetto non è possibile. Che siano due verità inconciliabili dipende dalla nostra conoscenza. La terza reazione è certamente la più saggia. Cercheremo di comprendere ciò che Gesù ci vuole insegnare. Una delle ragioni per la quale non comprendiamo il linguaggio biblico è che noi diamo spesso il medesimo significato alla stessa parola. Eppure, in qualsiasi lingua vi sono parole che vengono usate per i motivi più disparati. Possiamo fare un esempio con il verbo saltare. Si può saltare con la corda. Si può saltare giù dal letto. A volte può saltare la mosca al naso, andare in collera. È possibile saltare in aria, sia essere violentemente proiettato in alto, sia in senso simbolico. Non è difficile saltare in bestia, arrabbiarsi. A volte possiamo saltare, nel leggere, una pagina. A scuola si può saltare una classe, colui che fa due classi in un solo anno. Un fatto può saltare agli occhi, è stato messo in evidenza. Dunque, come accettiamo nella nostra lingua di usare un verbo che abbia diversi significati? Così. Dobbiamo regolarci con le parole e i verbi della Bibbia. Il verbo giudicare viene applicato a 1. Condannare, sentenziare, sprezzare. 2. Discernere, esaminare, dare un parere, valutare, distinguere. Ciò che Gesù ordina in Luca è quello di non giudicare, cioè di non disprezzare il nostro prossimo. Mentre nel Vangelo di Giovanni Gesù ordina di valutare, di discernere, di esaminare. Esamineremo innanzitutto la parola giudicare nel senso di valutare, esaminare, poi nel senso di non disprezzare, non condannare. Giudicare nel senso di esaminare e valutare. Vi sono credenti che trovano sbagliato giudicare le persone. Bisogna riconoscere che tutti noi giudichiamo ogni istante gli aspetti della nostra esistenza. Valutiamo, come un computer, ogni parola, ogni azione, ogni aspetto della vita con cui abbiamo a che fare. Se facciamo la spesa, esaminiamo la frutta, il prezzo, la quantità che ci occorre. Se intraprendiamo un viaggio, valutiamo l'orario, il tempo, il costo. Mentre guidiamo l'auto, teniamo presente la velocità, i cartelli indicatori, i pericoli. Mentre parliamo con qualcuno, pesiamo le sue parole, il tono, il contenuto. L'uomo è quindi principalmente un essere che valuta, esamina, che esprime il suo parere, la sua opinione. E ciò si chiama giudizio. Il vocabolario in effetti si esprime così con questo verbo. Qualsiasi affermazione verbale oppure scritta, la quale non sia una semplice constatazione di fatto, ma esprima un'opinione sulle qualità, il valore, il merito di una persona o cosa. Se noi ci comportiamo in questo modo per vivere, dobbiamo avere lo stesso comportamento anche per quello che riguarda il regno di Dio, perché la vita spirituale deve essere valutata, esaminata, pesata, considerata, nella stessa maniera. Anzi, molto di più. Gesù, esponendo le parabole di colui che vuole costruire la torre e di chi dichiara guerra a un suo nemico, invita coloro che vogliono seguirlo a valutare se possono farlo, Luca 14, 28-31. Egli ha sempre scoraggiato i facili entusiasmi mancanti di una ponderata valutazione. In Matteo 7, 1-5, Gesù non ha proibito di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello, ma ha ordinato che, chi lo vuol fare, prima tolga la trave dal suo occhio. In seguito potrà togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. L'apostolo Paolo chiede ai credenti di Corinto che valutino la sua lettera. 1 Corinzi 10 e un quarto. Quando uno parla nell'assemblea, il suo discorso deve essere giudicato. 1 Corinzi 14 e 29. Questo principio non deve suonare offensivo anche per chi è anziano o laureato. Paolo ricorda ai Corinzi che un giorno la Chiesa giudicherà il mondo e gli angeli. 1 Corinzi 6:2. Il cristiano è dunque chiamato a giudicare, a soppesare ogni cosa. Attenzione però, nessuno di noi pensi che sia facile valutare le cose della vita e quelle del regno di Dio. Per le cose della vita è sufficiente considerare come gli stessi giudici siano in disaccordo tra di loro quando emettono delle sentenze. Mentre una corte condanna un imputato, un'altra corte lo assolve. Di fronte a certi omicidi, a volte una nazione si divide in colpevolisti e in innocentisti. Chi può dare la giusta valutazione dei fatti? Anche per valutare le cose che riguardano il regno di Dio esistono molte difficoltà. I comportamenti di uomini che hanno segnato il percorso della Chiesa, quali Lutero e Calvino, sono ancora oggi oggetto di discussione. Solo in cielo conosceremo la realtà dei fatti e dei moventi. Però, finché siamo su questa terra, siamo costretti a giudicare. Quindi, dobbiamo fare tutto il possibile per avere giudizi equi e giusti, perché esiste il giudizio precipitoso, frettoloso, approssimativo, parziale, preconcetto. Sta scritto, tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, ma Yahweh pesa i cuori. Proverbi 21:2. È difficile per noi essere convinti che possiamo sbagliare, anche nel giudicare. Così riteniamo che le nostre vie o i nostri giudizi siano sempre retti, per cui meno. Con un atto di umiltà, meno possiamo almeno partire dal presupposto che dobbiamo imparare a giudicare. Fondamentalmente vedo 4 ostacoli che ci impediscono di avere un giusto giudizio. 1. Le barriere nell'ascolto. 2. Le nostre contraddizioni. 3. Le nostre limitazioni. 4. Le nostre concezioni sbagliate sull'amore. Consideriamo dettagliatamente ogni aspetto. 1. Barriere nell'ascolto. L'uomo che ascolta potrà sempre parlare. Proverbi 21 e 28. Chi risponde prima di avere ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Proverbi 18 e 13. La vita umana è principalmente una vita sociale. Noi ci relazioniamo con il prossimo mediante atti e parole. E, quindi, non solo importante ma indispensabile per noi sapere comunicare con il prossimo. Il prossimo è dovuta perché, stando all'esperienza, all'incomprensione. Proprio per questo la scrittura ci invita a saper ascoltare, ad attendere che la persona che parla termini la sua esposizione. L'incomprensione non è sempre il risultato dell'ignoranza o della cattiveria, ma anche di barriere che noi uomini abbiamo nell'ascolto. Eccone alcune che puoi valutare. A. Pensi di sapere già in anticipo quello che sta per dire l'altro. Sentirai soltanto ciò che rientra nella maggior parte dei conflitti con tuo schema mentale e non scoprirai nulla di nuovo. B. Hai fissato in anticipo un giudizio sull'altro. Classificherai tutto quello che senti in uno scompartimento predeterminato. C. Cerchi di sentire solo ciò che vuoi sentire, così metterai in bocca all'altro parole che non ha pronunciato o attribuirai loro un significato che non avevano. D. Non permetti al tuo interlocutore di finire il suo discorso. Interrompi continuamente il suo dire. E. Rifletti sulla risposta da dare quando l'altro ancora sta parlando. F. Vuoi imporre all'altro il tuo punto di vista. G. Non sei pronto ad accettare l'altro come persona con le sue peculiarità. H. Tutto ruota intorno a te e sei concentrato solo sui tuoi interessi. I. Parti sempre dal tuo punto di vista. Così scrive C.S. Lewis nel suo libretto Diario di un dolore, per far comprendere quanto sia facile avere opinioni sbagliate sia sul prossimo che di Dio. Non la mia idea di H ma H, sì, e anche non la mia idea del prossimo ma il mio prossimo. Forse che non facciamo spesso questo errore con chi è ancora vivo, con chi è accanto a noi nella stessa stanza, rivolgendo le nostre parole e le nostre azioni non all'uomo vero ma al ritratto, al riassunto quasi, che ne abbiamo fatto nella nostra mente, e bisogna che lui se ne discosti in modo radicale perché noi arriviamo ad accorgercene. Nella vita reale è una delle differenze tra la vita e i romanzi. Le sue parole e le sue azioni, a osservarle bene, non sono quasi mai perfettamente in carattere con l'immaginazione che abbiamo di lui. Nella sua mano è sempre una carta di cui non sapevamo. Ciò mi fa supporre di comportarmi in questo modo con gli altri. E il vedere quante volte gli altri si comportano palesemente in questo modo con me. Ci illudiamo tutti di conoscerci l'un l'altro a menadito. È evidente che con tali preconcetti e limiti non vi può essere colloquio. Se non vi è la seria intenzione di voler udire non solo delle parole, ma di comprendere ciò che il prossimo ci vuole trasmettere, si può parlare una giornata intera senza capirsi. Anzi, è possibile terminare la propria esistenza senza aver compreso il proprio fratello o il proprio coniuge e, peggio ancora, essere convinti di averlo conosciuto. Non dobbiamo dimenticare che ogni essere umano è in crescita, che l'età e l'esperienza modellano il suo modo di pensare, per cui non è sempre lo stesso. Dobbiamo cogliere nel prossimo la sua evoluzione, questo specialmente quando dei genitori hanno dei figli piccoli. Purtroppo, saper ascoltare è sempre stato uno dei doni più rari, non solo perché occorre una grande dose di umiltà, ma perché non si è convinti del bisogno di questo dono. Così, il nostro desiderio di parlare e di affermarci è talmente forte che poco ci importa ciò che ha da comunicare il prossimo. Siamo sazi della nostra conoscenza. Eppure, chi non sa ascoltare, non sa evolversi, non sa arricchirsi. Sono più le cose che dobbiamo imparare dagli altri che quelle che già conosciamo. Se il principio della saggezza è «acquista la saggezza», Proverbi 4:7, il principio dell'ascolto è desiderare di imparare ad ascoltare. Dio non manca di dare saggezza a chi ammette di non averne e la chiede. Giacomo 1:5. L'arte della conversazione consiste nell'esercizio di due difficili qualità, esprimersi e comprendere. Si deve possedere al tempo stesso la capacità di comunicare e quella di ascoltare. Un connubio raro, ma irresistibile. Benjamin Disraeli. 2. Le nostre contraddizioni. I sentimenti e il cuore dell'uomo sono un abisso. Salmo 64:6. Un'altra ragione che ci impedisce di avere un giusto giudizio sulle persone è la complessità dell'essere umano. Chi conosce i propri errori, si chiede il salmista, e prega Yahweh, purificami da quelli che mi sono nascosti. Salmo 19:12. Vi sono difetti, errori, mancanze che sono evidenti ad altri, ma non a noi. I difetti delle persone sono come i fari delle automobili, ci abbagliano solo quelli degli altri. Paul Tournier, nel suo libro La nostra maschera e noi, afferma: come scoprire la vera personalità? Se noi non ne afferriamo che delle immagini deformate e differenti, che non dipendono dall'individuo soltanto, ma da noi stessi e da tutto l'insieme che lo circonda, un uomo viene tacciato per vanitoso mentre cerca solo di compensare, senza riuscirvi completamente, i suoi dubbi su se stesso e i suoi complessi di inferiorità. Un altro è ammirato per la sua dedizione al dovere mentre sfugge alle responsabilità più semplici e vicine a lui. Un altro, sempre compassato e serio, ha delle manie infantili che nasconde con cura. Ci sono persone che in casa si fanno servire come dei pascià mentre fuori si dedicano agli altri. Uomini silenziosi in casa sono ciarloni fuori. Alcuni passano tutta la loro vita a difendersi da tutto. Ne mostriamo alcuni aspetti e ne nascondiamo con cura altri. Questo quadro dovrebbe rendere ognuno di noi molto cauto nel giudicare il fratello se non vogliamo cadere nel giudizio di Dio. La Bibbia stessa ci riporta episodi dove certi atteggiamenti di orgoglio venivano giudicati umili, altri atteggiamenti di fede venivano scambiati per atti vili o per orgoglio. Infatti Davide viene giudicato superbo dal suo fratello maggiore perché osava combattere contro un uomo che nessuno voleva affrontare. La fede di Davide era dunque stata scambiata per orgoglio. Notiamo che Davide non fece del vittimismo, non mise il broncio, non si arrabbiò, ma continuò la sua strada, nonostante le critiche, e alla fine, come risultato di una vera fede, portò la testa di Golia. L'esperienza di Davide ci insegna pure di non fare i permalosi quando il nostro zelo, la nostra fede o il nostro amore vengono scambiati per altro. La cessata pratica di queste virtù ne dimostra l'inconsistenza. Perché sono state scritte queste cose? Risponde l'Apostolo Paolo: tutto ciò che è stato scritto è per il nostro ammaestramento. Romani 15:4. Quale ammaestramento possiamo cogliere da questa esperienza di Davide? Perché anche noi possiamo giudicare con dei preconcetti un fratello? Possiamo interpretare gli eventi della vita in modo sbagliato? Quando uno dice io mi baso sui fatti, sostiene forse il vero, ma il giudizio intorno a un fatto storico, quale si può ricavare dalla considerazione degli eventi che da esso hanno avuto origine, rimane spesso condizionato da fattori emotivi, religiosi, politici. Se non fosse così, non ci sarebbero tante discordanze nell'interpretare la storia. Garibaldi può essere considerato sia come eroe, sia come mercenario. Gesù può essere ritenuto sia figlio di Dio, sia un megalomane. Un uomo che ruba è colui che si è appropriato della roba altrui, ma le ragioni possono essere varie. Uno può aver rubato perché è costretto dalla fame, un altro perché è un cleptomane. Il furto rimane furto, i problemi sorgono quando entriamo nelle valutazioni morali, il terreno è molto viscido. Ho sentito più di un cristiano che si è lamentato perché un credente non lo ha salutato e più di questo lo ha condannato. Ma le motivazioni per le quali un credente non saluta un altro sono innumerevoli. Non l'ha visto, si è dimenticato, è assorto nei suoi pensieri, ha dei problemi familiari seri. Sono le valutazioni morali errate che dividono i cristiani, non tanto i fatti. 3. Le nostre limitazioni. Noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. 1 Corinzi 13:9. Un'altra ragione perché dobbiamo essere prudenti nel giudicare è quella di tener presente che noi non possiamo conoscere tutti i risvolti di un fatto. noi conosciamo e in parte giudichiamo. Questa ultima considerazione viene dall'Apostolo Paolo, che la espose nella sua prima lettera ai Corinzi, quando presentò l'amore come una delle virtù fondamentali del cristiano. Per Paolo, l'amore deve tener presente anche l'aspetto umano. Nessuno di noi può essere paziente, benevolo, tanto per citare alcune caratteristiche dell'amore, se non ha costantemente davanti agli occhi la sua relatività, il suo conoscere in parte. Esaminiamo 10 ragioni che possono portarci ad avere un giudizio sbagliato. 1. In caso di infermità mentale. Un ubriaco o un demente non possono giudicare rettamente. Siamo tutti d'accordo su questo primo punto, ma esistono altre simili alterazioni. A volte si è ubriachi dalla stanchezza. La fretta altera l'equilibrio di valutazione. Le valutazioni fatte con calma e nella serenità sono più vicine alla realtà. Proprio per questo è saggio non prendere decisioni o fare affermazioni categoriche quando ci troviamo in una situazione calda. Se la notte porta consiglio, la riflessione, con uno spirito di preghiera, ne porta molto di più. Dio desidera che i cristiani siano sempre in condizioni adatte per giudicare, specialmente quando si tratta del regno di Dio. Iave aveva ordinato ai sacerdoti di non bere vino quando entravano nella tenda di convegno, e questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che Iave ha date loro per mezzo di Mosè. Trasgredire questo comandamento comportava la pena di morte. Levitico 10:8-11. Per la stessa ragione Paolo ordina che i vescovi non siano dediti al vino, né litigiosi, non attaccati al denaro, né violenti. 1 Timoteo 3:1-7, tutte cose che alterano le capacità di giudizio di una persona. 2. Le condizioni esteriori possono essere anormali. Una lampadina, se è pitturata, può sembrare rossa. Un giorno avevo saldato per l'intera giornata e il colore della mia pelle era diventato color roseo. La sera andai dal dottore perché avevo un certo malessere e glielo dissi. Guardandomi attentamente mi rispose: «Non mi sembra, lei ha un bel colore!» Quando Isacco volle benedire Esaù si sbagliò e benedisse Giacobbe. Giacobbe si era ricoperto il corpo di pelli, perché Esaù era peloso. Isacco, che non ci vedeva, tastò Giacobbe e pensò che fosse Esaù. Isacco era stato ingannato dalle condizioni esterne. Inoltre, se l'uomo è pieno di contraddizioni, se è sempre in evoluzione, come possiamo pretendere di essere certi di giudicarlo rettamente? 3. Quando si ha una memoria imperfetta. Un mezzogiorno, tornato a casa dal lavoro, mia moglie mi fece gli auguri per il mio compleanno. Prima di mangiare, come di consueto, ringraziai il Signore perché mi aveva condotto e protetto per i 28 anni trascorsi. Al termine della preghiera, mia moglie mi fece notare che ne avevo compiuti più di 30. La memoria non è sempre stata il mio forte. Ho notato però che sono in buona compagnia. Tutti noi ricordiamo fatti e ne dimentichiamo altri. E spesso ricordiamo ciò che ci colpisce psicologicamente di più, anziché ciò che è importante o determinante. Questa è anche una delle ragioni per la quale, nel raccontare un evento, ognuno di noi mette in evidenza aspetti diversi. 4. Quando non si conoscono tutti i fatti. Un uomo incolto può sostenere che il sole gira attorno alla terra. Un ateo può affermare che Dio non esiste quando una simile affermazione presuppone una conoscenza illimitata. La relatività nella conoscenza è certamente la maggior ragione dei nostri errori, sia umani sia spirituali. Ne sono una dimostrazione coloro che trovano errori nella Bibbia perché non tengono presenti i fattori culturali, grammaticali e storici. Una delle ragioni per la quale i temporanei di Gesù non lo ritenevano un profeta era che tutti pensavano, essendo vissuto a Nazareth, che fosse Galileo. Ma Gesù era giudeo, nato a Betlemme, episodio questo conosciuto da pochissimi. Un giorno mentre camminavo vidi per terra un giornale pornografico. Lo raccolsi perché non cadesse in altre mani per buttarlo nel bidone del pattume più vicino. dal momento che mi vergognavo di avere una simile rivista la misi in tasca. Mentre camminavo pensavo a un eventuale infarto. Trovandomi addosso tale rivista qualcuno avrebbe concluso che leggevo pubblicazioni pornografiche e, cosa peggiore, essendo un cristiano, un anziano di chiesa, un predicatore, avrei scandalizzato molti credenti. Paolo fu condotto in prigione per il resto della sua vita solo perché alcuni giudei pensavano che avesse condotto nel tempio Trofimo un pagano profanando il luogo santo. Vi sono giudizi che possono condizionare per sempre la vita di una persona. 5. Quando la mente non ubbidisce alle leggi della logica. Un bastone nell'acqua ai nostri occhi risulta storto, e solo con la ragione riusciamo ad affermare che ciò che vediamo non è reale. Così pure una stessa quantità di liquido, messa in due recipienti diversi, inganna chi deve valutare se un recipiente ha più liquido di un altro. Il principio della logica lo uso spesso per quanto riguarda i credenti. Una volta che ho compreso le caratteristiche di una persona, non mi lascio ingannare da quello che vedo o sento. Se so che un fratello non è maldicente, valuterò ogni sua affermazione in quest'ottica. Se invece lo conosco come altruista, ogni accusa per mancanza di altruismo è da me seriamente valutata. Con ciò non voglio affermare che la mia opinione di un fratello non cambia o che lo ritengo sempre quale io penso che egli sia, ma voglio sostenere che non è possibile cambiare opinione morale su di un fratello appena vedo il bastone spezzato. Un giorno una sorella mi venne incontro e senza tanti preliminari mi chiese: «Ellero, perché non vuoi portare tua mamma in sala?» Sul momento sono rimasto di stucco. Evidentemente mia mamma o qualcuno gli aveva parlato in tal senso. Anche se fossi conosciuto come una persona che non desidera portare in sala nessuno, la sua reazione più corretta doveva essere quella di chiedermi: «Ellero, ho saputo che non vuoi portare tua mamma in sala, è vero? Non posso dunque mettere in dubbio una peculiarità di un fratello alla prima occasione. Se voi conoscete vostra moglie come una donna fedele, mettereste in dubbio la sua fedeltà alla prima accusa? Chiedereste a vostra moglie: cara, perché mi hai tradito? Oppure: cara, ho sentito dire che tu mi tradisci. Cos è successo?» È evidente che questo atteggiamento verso i fratelli presuppone che io li conosca bene. Vi sono due modi per conoscere bene una persona: usare un foglio bianco o uno macchiato. Per quanto mi riguarda, io uso il foglio bianco. Le peculiarità di una persona che non conosco vengono tracciate su di un foglio bianco, in modo che alla fine ne ho un ritratto. Altri hanno un foglio macchiato, cioè hanno dei pregiudizi e dei preconcetti. È evidente che chi ha un foglio con delle macchie non ha un ritratto pulito. 6. Quando si suppone vera una ipotesi senza averla sottoposta a esami sufficienti. Occorre tenere presente anche questo aspetto nel giudicare una persona. Sta scritto: il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione, ma viene l'altra parte e lo mette alla prova. Proverbi 18 e 17. Prima di farci un'opinione di una persona o giudicare un conflitto, è molto saggio sentire tutte e due le campane. Quando una persona presenta i fatti, non può esporli dal punto di vista dell'altro, e solo l'insieme delle due versioni rende un quadro più vicino al reale. L'obiettività in una persona è pressoché inesistente, soprattutto quando i sentimenti sono alterati. Inoltre, si suppone vera un'ipotesi quando vi è di mezzo l'immaginazione, ma mille probabilità non fanno una verità. Un giorno una mia vicina di casa, conosciuta come una persona poco onesta, venne a chiedere a mia moglie una cosa. Mia moglie dovette lasciarla un attimo sola in cucina e poi tornò con ciò che aveva chiesto. Poco dopo mia moglie cercò il portafoglio che pensava di aver lasciato in cucina e non lo trovava. La conclusione più ovvia fu che l'aveva preso la nostra vicina. In seguito il portafoglio fu ritrovato. Un pastore di una chiesa fu accusato di adulterio. Qualcuno l'aveva visto mentre abbracciava con sentimento una donna che non era sua moglie. Più tardi si seppe che era sua sorella, la quale partiva come missionaria per l'Africa. 7. quando si fa un ragionamento deduttivo. Il ragionamento deduttivo è qual procedimento mediante il quale si stabilisce che cosa sia vero per deduzione dalla verità conosciuta. Se è vero A è vero pure B e C. Se è falso A è falso B e C. Nell'Evangelo di Giovanni si racconta l'episodio di Gesù che nel vedere piangere Maria e i giudei per la morte di Lazzaro fremette nello spirito e si turbò. In seguito leggiamo che Gesù pianse. Giovanni 11 e 35. Questo episodio viene interpretato in vari modi. I giudei pensavano che Gesù piangesse per la morte di Lazzaro, e così tanti cristiani. In effetti vi è una morte A, un dolore, B. Di conseguenza Gesù pianse C. Ma Gesù non piangeva per la morte di Lazzaro, perché sapeva che da lì a poco l'avrebbe risuscitato, ma versava lacrime per l'incredulità di chi gli stava vicino. Quindi, nel caso di Gesù, se era vero A e B, non era vero automaticamente il C. Noi facciamo ragionamenti deduttivi più di quanto non pensiamo, e proprio su questo gioca il cinema. I film sono basati tutti su ragionamenti deduttivi. Le scene pornografiche sono basate su immagini deduttive, su suoni e rumori in modo tale che comprende solo chi sa. Ho compreso maggiormente questo quando sono diventato adulto e rivedendo certe scene che credevo ingenui, mi sono reso conto che contenevano elementi pornografici non filmati, ma chiaramente suggeriti dall'immaginazione. L'immaginazione diventa poi nemica quando una persona è conosciuta per delle tendenze negative. Se manca qualcosa, il sospetto cadrà, come nel caso della mia vicina, prima di tutto su chi ha la tendenza di rubare. Se un bambino è litigioso, in caso di lite, la colpa cade generalmente su di lui. A mio avviso, i ragionamenti deduttivi sono i maggiori istigatori per un conflitto. Tu hai fatto questo perché eri arrabbiato, mentre probabilmente aveva la testa altrove. 8. Quando vi è dell'odio? Con la parola odio non si intende necessariamente quel sentimento di forte e persistente avversione, ma tutto ciò che non è motivato dall'amore. Quando Gesù faceva dei miracoli, l'odio dei suoi nemici attribuiva la sua potenza a Satana. Quando un marito non stima sua moglie, le sue valutazioni saranno sempre tendenti al negativo. Uno che non crede in Dio avrà giudizi che saranno influenzati da questo suo presupposto. Un conflitto di personalità impedisce di accogliere parti positive del prossimo. Inimicizie, preconcetti, amarezze, mancanza di perdono, rancori, sono tutti atteggiamenti che portano ad alterare i giudizi. Avere uno spirito di parte ci impedisce di essere obiettivi. Dopo 37 anni di lavoro posso affermare che i sindacati hanno sempre fatto notare gli errori del datore di lavoro, ma non ricordo un solo esempio che abbiano ripreso un operaio che andava in malattia solo per ripicca. Appartenere a un partito vizia i giudizi. Quando succedono rilevanti atti di cronaca, inevitabilmente ogni partito prende una posizione di parte a seconda del suo orientamento. Tifare per una squadra di calcio rende cieco lo sportivo. Il rigore esiste se ha proprio vantaggio. Quando si tratta di giudicare un nemico, le valutazioni sono tendenti alla condanna. La scrittura ci narra che il re Saul odiava Davide per invidia. Quando ebbe l'occasione di poterlo uccidere ingiustamente, la sua valutazione fu: Dio lo dà nelle mie mani. L'odio gli impediva di comprendere che la sua valutazione degli eventi era errata. La parola di Dio afferma non intentare causa contro nessuno senza motivo se non ti ha fatto alcun male. Proverbi 3:5. Il significato di questo proverbio è non creare conflitti per ragioni emotive, per rancori, per odio personale o tramandato. Se odi qualcuno senza una motivazione pratica, può essere che in lui rifiuti qualcosa che fa parte di te, perché ciò che non fa parte di noi non ci disturba. L'arte di essere saggi è la capacità di capire a che cosa si può passar sopra, perché le conseguenze dell'odio spesso sono molto più gravi delle sue cause. 9. Quando vi è amore senza discernimento. Non solo l'odio altera i giudizi, anche un amore o una consacrazione sia una persona sia una causa senza la dovuta conoscenza. Così sta scritto: lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Proverbi 19:2. Uomini come Hitler e Stalin non avrebbero sterminato milioni di persone se non avessero avuto accanto persone che con cieco affetto, consacrazione e dedizione non si fossero messi al loro servizio. Certo, noi deploriamo coloro che li hanno assecondati, ma in una certa misura, con il nostro irragionevole affetto, facciamo come loro. Se in una chiesa vi è un divorzio, un adulterio, chi esercita omosessualità, ecco che si formano subito due partiti. E tutto questo secondo l'amicizia che abbiamo. Il nostro affetto, poi, impedisce un giusto giudizio quando si giudicano cose personali, intime, come una madre quando suo figlio viene rimproverato dalla professoressa. Ho conosciuto conduttori veramente imparziali verso tutti, ma quando si trattava di toccare la loro reputazione, o quando un loro figlio era sotto disciplina, difficilmente riuscivano a dare giudizi imparziali. Dobbiamo ammetterlo, l'odio altera il giudizio, ma l'amore e l'affetto non sono meno pericolosi. Vi sono sorelle con rara obiettività, ma quando si tratta di toccare, una loro amica sembrano cieche sui suoi difetti. Al tempo di Neemia leggiamo nel libro omonimo che Eliasib aveva fatto del male. Per amore di Tobia, Neemia 13:7. Sì, si può fare del male per amore. Non sono dunque solo i peccati che guastano i rapporti umani, ma anche le virtù quando non si esprimono nella verità. 10. Quando uno si ritiene più saggio della parola di Dio. Nella parola di Dio vi sono affermazioni precise e categoriche. Ritenerci più saggi del pensiero di Dio ci porta a valutazioni errate. Non solo. Dio afferma dicendosi savi sono diventati stolti. Romani 1.22. Il verbo diventati mette in evidenza che l'uomo è in grado di fare dei ragionamenti giusti e questo fino a quando non dice di saperne più di Dio o ritiene la sua logica più logica di quella di Dio. Dio afferma che l'uomo è perduto per natura e inevitabilmente incamminato verso la perdizione. Ogni religione e religioso che neghi questo non può avere giudizi giusti. Gesù ha parlato di un inferno e di un paradiso. Ogni Vangelo che non tiene in considerazione tali luoghi è falso. Il cattolicesimo ha dottrine giuste, ma quando afferma che Maria è nata senza peccato, si pone al di sopra della parola di Dio, alterando così ogni valutazione su Maria. L'evoluzionismo è in opposizione alla creazione. Non stupiscono quindi certe stupidaggini che avanzano alcuni scienziati. Dal momento che noi non siamo onniscienti e non possiamo conoscere tutti i fatti, possiamo essere certi dei nostri giudizi solo se concordano perfettamente con la parola rivelata di Dio. Tutti gli altri giudizi, basati sull'esperienza, possono essere accettati in via sperimentale, purché evitino ogni manifesta fonte di errore. Uno dei grandi problemi che ha la società è quello di decretare delle leggi giuste. Quando una legge può essere dichiarata giusta o ingiusta? Una legge è giusta quando s'accorda con la legge morale di Dio, ed è ingiusta se non è in armonia con il suo volere. Dal momento che la legge di Dio è fatta per l'uomo e non viceversa, possiamo affermare che ogni legge che contribuisce a elevare la personalità umana è giusta, mentre ogni legge che la degrada è ingiusta. Per lo stesso principio, ogni giudizio verso il prossimo che non lo aiuta a crescere deve essere ritenuto falso, sbagliato. Questa verità dovrebbe essere tenuta in considerazione soprattutto da coloro che hanno il compito della predicazione e istruzione, perché anche senza volerlo possono mettere dei pesi illeciti e ingiusti a chi ascolta. Il Vangelo di Cristo è un Vangelo di liberazione e ogni regola che suscita angoscia o sensi di colpa deve essere ritenuta falsa. E, come la verità, se essa conduce alla disarmonia o alla divisione, in realtà è una menzogna. La verità separa il vero dal falso, il credente da un non credente, perché Gesù ha detto che è venuto per dividere e non unire, ma quando questa verità divide ciò che Cristo ha unito, la Chiesa, sposi, allora occorre accettare la sentenza di Dio. 4. Le nostre concezioni sbagliate sull'amore. Castigando la sua iniquità, tu correggi l'uomo, distruggi come tarlo quel che ha di più caro. Salmo 39:11. Chi ama ferisce. Proverbi 27:6. Si racconta il seguente episodio. Un certo muratore apprendista era arrabbiato con il suo capomastro e aveva deciso di giocargli un brutto tiro. Una sera riuscì a impossessarsi del metro pieghevole del suo capo e con molta accortezza e diligenza l'accorciò di circa di 2 centimetri. Il giorno successivo il capomastro, all'oscuro di tutto, prese il suo metro e murò il frontone dove dopo avrebbe dovuto essere inserita la finestra. Quando arrivò il falegname per inserire la finestra, questa non entrava. Il capomastro dava la colpa al falegname per il lavoro fatto male e il falegname al capomastro, tanto che i due stavano per picchiarsi. Tutti e due misuravano con il loro metro la finestra, per dimostrare che l'altro non aveva lavorato con accuratezza. Dopo aver misurato un paio di volte ebbero un momento di esitazione e notarono che, forse, c'era qualcosa che non andava. Alla fine ebbero la brillante idea di mettere i loro metri l'uno accanto all'altro per verificare se erano della stessa lunghezza. Con sorpresa il capomastro notò che il suo metro era più corto di qualche centimetro. Dio è amore. Questa è una verità indiscutibile, eppure, quando misuriamo le sue vie, abbiamo dei dubbi. Perfino Giobbe, uomo integro e retto qual era, nella sofferenza dubitò dell'amore di Dio. Giobbe 33:10. Come può Dio essere amore quando corregge, castiga, riprende? Come può, colui che ama, ferire? Sono domande che sorgono perché l'amore è la virtù più misteriosa, è insondabile. Per l'uomo, lo dimostra il fatto che ogni uomo ha il suo metro per definire l'amore. Per questo motivo, si trovano nei comportamenti delle persone le più grandi contraddizioni. Una coppia di sposi obbligava i loro figli a picchiarsi per poi filmare il tutto. Alla richiesta del perché di questo comportamento la risposta fu per amore. L'uomo ha perso il vero parametro delle virtù cristiane e soprattutto quello dell'amore, per questo il concetto che ha dell'amore non si incastra con quello di Dio. Non pensiamo che siano solo i non credenti ad avere difficoltà nel riconoscere il vero amore, ma anche grandi uomini di cultura e di fede. Come C.S. Lewis, di fronte alla sofferenza, una moglie morta inesorabilmente con il cancro, hanno posto delle riflessioni veramente toccanti. Ecco uno stralcio. Un Dio perfettamente buono non incute meno paura di un sadico cosmico. Più siamo convinti che Dio ci fa soffrire solo per guarirci, meno credibile si sembra che implorare di non far male serva qualcosa. Un uomo crudele lo si potrebbe corrompere, potrebbe stancarsi del suo infame passatempo, potrebbe avere la sua parentesi di misericordia, come un alcolizzato ha le sue parentesi di sobrietà. Ma ammettiamo invece di avere a che fare con un chirurgo che ha a cuore solo il nostro. Bene. Più sarà buono e coscienzioso, più sarà inesorabile nel tagliare. Che cosa vogliono dire quelli che proclamano «Non ho paura di Dio perché so che è buono meno Stark»? Non sono mai stati da un dentista. Ho l'impressione che molti cristiani abbiano un metro più corto rispetto a quello della Bibbia e abbiano di conseguenza romanticizzato l'amore di Dio. Tempo fa ho visitato all'ospedale una sorella che soffriva da anni. Durante la conversazione le ho ricordato quanto Dio l'amasse e lei, di rimando, mi rispose: «Anch'io un giorno credevo che Dio mi amasse, ma ora non più». Dobbiamo essere onesti, come ha affermato Lewis. Noi non possiamo sapere con quanta convinzione crediamo a qualcosa, fino a quando ciò che crediamo non diventa una questione di vita o di morte. Prendiamo una corda. È facile dire che la credi sana e robusta finché la usi per legare un baule, ma immagina di doverci restare appeso sopra un precipizio. Solo in quel momento verificheremo la realtà della nostra fede. Solo un rischio vero mette alla prova la realtà della nostra convinzione. Quando affermiamo che Dio ci ama, cosa pensiamo? Proprio perché abbiamo romanticizzato l'amore di Dio, abbiamo pure idealizzato l'amore fraterno. Noi viviamo l'amore del cristianesimo in base all'opinione che abbiamo su di esso.

Per molti, l'emblema dell'amore è una mamma che accarezza, che consola. Allo stesso modo, edificare una chiesa significa aggiungere sempre qualcosa, nuove anime, nuove attività, nuovi programmi, nuove entrate. Essere positivi, sempre positivi. Ciò è vero, ma l'amore si esprime anche con tagli dolorosi, con atteggiamenti che possono essere interpretati male, quali voler chiarire situazioni scomode e imbarazzanti che producono l'effetto di un sasso in uno stagno. Quando Yahweh chiamò Geremia al ministero di profeta, gli disse: «Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare». Geremia 1:10. Dio aveva riassunto il ministero di Geremia in 6 verbi o 6 azioni, 4 delle quali erano negative: sradicare, demolire, abbattere, distruggere. Questo modo di procedere non era certamente gradito al popolo, ma ciò era indispensabile per piantare ed edificare in seguito. Il metodo naturale per educare un figlio non è forse quello di farlo soffrire? Oltre che cullarlo e accarezzarlo, non lo si punisce? Quale scolaro ha mai imparato a scuola senza disciplina? Chi ha mai imparato un mestiere senza sofferenza? Come potrebbero degli anziani disciplinare i credenti se non potessero valutare i fatti della vita? Come può una chiesa crescere spiritualmente se nessuno ha il coraggio di evidenziare gli errori e riprendere chi sbaglia? Non tutti i cristiani hanno compreso che la riprensione fa parte di un atto di amore. Leggiamo il Levitico 19, 16-18. Non andrai in giro calunniando fra il tuo popolo, né prenderai posizione contro la vita del tuo prossimo. Io sono l'Eterno. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, riprendi pure il tuo prossimo. Ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Non farai vendetta e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono Yahweh. Secondo la scrittura, se non si riprende il fratello quando questo ci ha fatto un torto che ci turba, ci si carica di un peccato. Non è fatto amore il mandare giù o sopportare quando si è turbati. Per riprendere qualcuno in modo cristiano occorrono più umiltà, più amore, che di qualsiasi altro dovere, perché questo atto non sarà il risultato di una vendetta ma di tanta preghiera bagnata da lacrime. Con questo spirito, secondo ciò che è scritto in Matteo 18, 15-18, il cristiano ha il dovere e il diritto di riprendere il prossimo per recuperare un rapporto rotto. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. Se la riprensione non porta alle conclusioni sperate, ci chiameranno alcuni testimoni. Ciò dimostra che non si tratta di una semplice mancanza, il fratello non ti saluta, non ti telefona, ma di qualcosa di serio. Se questo non risolvere il problema, si porterà il conflitto alla conoscenza della Chiesa. A questo punto la Chiesa è chiamata a giudicare, a valutare chi ha ragione. Il comandamento di Gesù di chiamare un fratello in giudizio davanti alla Chiesa, Matteo 18, 15-17, contraddice chi sostiene che essa non è matura di valutare i conflitti tra credenti. Se la maturità cristiana si raggiunge nell'esercitare una valutazione del bene e del male, Ebrei 5,14, tutti coloro che non vogliono coinvolgere la Chiesa, la condannano a rimanere infantile. La Chiesa, quindi, è invitata a giudicare correttamente i fatti che si svolgono al suo interno, funzione, questa, di vitale importanza per smascherare il male, altrimenti esso, come un cancro, può minare alla base la sua stessa esistenza. Che l'amore non sia gradevole, lo vediamo pure in Dio stesso, Lui che è amore, Ebrei 12, 6-11. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ogni correzione Infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. La scrittura riconosce che l'amore può produrre tristezza. Anche Paolo aveva recato tristezza ai Corinzi. Perché, anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Queste parole di Paolo mi costringono a esaminare un altro aspetto dell'amore. Se l'amore è la virtù più misteriosa che esista, smettiamo di giudicare il nostro prossimo solo perché è un diverso, un eclettico, cioè colui che non segue un determinato sistema o indirizzo. Impariamo piuttosto a considerare i suoi risultati. Tutti sappiamo quanto ci dia fastidio il diverso, ed è sufficiente osservare con quanta fatica gli italiani accettano gli stranieri. Un medico lavorava presso un ospedale missionario e curò 6 giovani prostitute. Le invitò alla sua comunità, ma i membri di chiesa, come le videro, notarono subito che genere di donne fossero. Cominciarono a tossire e a fare versi di imbarazzo quando entrarono. In seguito furono ignorate e cominciarono a circolare voci negative. Non fu necessario prendere altre misure perché non tornarono in quella comunità. Anche alcuni grandi uomini di Dio, mentre erano in vita, sono stati duramente attaccati perché non si muovevano nel convenzionale. Hudson Taylor fu criticato severamente dai credenti perché si era fatto crescere il codino come i cinesi. Giovanni Wesley fu condannato dalle chiese perché si era messo a predicare sulle piazze. Cosa allora da non farsi? Noi dobbiamo imparare a preoccuparci più dei risultati che dei metodi. E la scrittura stessa che ci invita ad avere questo atteggiamento. Prendiamo un comandamento dalla scrittura. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Efesini 4:6. Quando leggiamo l'ingiunzione di Paolo di parlare con grazia, pensiamo subito che dobbiamo imparare a parlare secondo la definizione del vocabolario, meno con una certa delicata bellezza. Ma la parola greca che sta per grazia, cioè charis, significa produrre benessere. L'ordine di Dio, quindi, non è quello tanto quello di impegnarci a parlare sempre con gentilezza o con delicatezza, anche se sono atteggiamenti importantissimi, ma piuttosto parlare in modo che alla fine la persona ne abbia un beneficio, un benessere. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Efesini 4:29. Un metodo dunque può essere buono e produrre dei risultati negativi, mentre un metodo sbagliato può produrre risultati positivi. Ecco alcuni esempi. Un giorno il predicatore Spurgeon udì un tagliapietre che bestemmiava in modo orribile. Gli si accostò e gli disse: «Lei sa bestemmiare veramente bene? Sa pregare altrettanto bene?» «Oh, diavolo!» esclamò l'operaio. «Questa idea non mi è ancora mai venuta a meno!» Spurgeon trasse dalla sua tasca una moneta d'argento e la mostrò al bestemmiatore. «Se le do questa moneta, mi promette che non pregherà mai?» «Trattino meno è un guadagno facile!» esclamò l'altro. «Promise!» e prese la moneta. Finito il suo lavoro, l'uomo, contrariamente alle sue abitudini, rientrò direttamente a casa sua. Sua moglie, sorpresa, lo guardò e gli chiese, intendendo che fosse successo qualcosa: «Cos'hai? Come ti senti?» «Trattino punto. Mi è accaduta una cosa spaventosa. Ho incontrato il diavolo in persona e mi ha fatto promettere di non pregare mai nella mia vita. Tieni», e mostrò la moneta. «Ecco il salario di Giuda. Io non posso tenerla a meno». E buttò terrorizzato la moneta sul tavolo. Più tardi la moglie rintracciò Spurgeon, ebbe un incontro con lui assieme a suo marito, e questi si convertì. Un altro episodio è quello del re Salomone. Di fronte a due prostitute che reclamavano il diritto di essere madri dello stesso bambino, egli chiese una spada per dividerlo in due e darne metà a ciascuna. Di fronte a questa decisione, la vera madre inorridì e preferì cedere suo figlio all'altra. Con una simile reazione, Salomone comprese chi era la vera madre. Una decisione più sensata non avrebbe prodotto questo risultato. Un giorno fui invitato da un mio amico il cui nonno era molto ammalato. Egli, come molti anziani, non solo faceva pesare la sua malattia, ma non si curava dicendo continuamente che voleva morire. Dopo una breve conversazione, constatai che era molto difficile poterlo calmare, così, poco dopo gli chiesi: «Di che colore la vuole?» Trattino punto. «Che cosa?» mi chiese il nonno. «La bara a meno», riposi io. «Quale bara?» chiese con gli occhi spalancati. «Visto che vuole morire, meno», risposi con molta calma, «quando sono fuori le cerco una bara. Mi deve solo dire di che colore la vuole, meno». Inutile che dica che smise il suo negativo atteggiamento e in poco tempo fu in grado di tornare a casa dall'ospedale. Dobbiamo accettarlo. La volontà di Dio non si esprime sempre nel convenzionale. Questo si accorda con ciò che ha affermato il profeta Isaia. Le nostre vie non sono quelle di Dio. Al tempo del malvagio re Ahab, un profeta chiese a un altro suo compagno di picchiarlo. Il compagno del profeta, che molto probabilmente era uno che si esprimeva secondo i canoni della giusta morale, si rifiutò di picchiarlo. Per questo suo rifiuto Dio lo punì facendolo uccidere da un leone. Morto. Perché si era rifiutato di picchiare un altro? Ha una morale logica? Non lo so. Ciò che so è che non è facile compiere la volontà di Dio, soprattutto quando questa è contro i nostri canoni morali. Dobbiamo ammetterlo. Spesso cose buone sono dannose, mentre le cattive sono utili. Chi non ha compreso questo non può accettare il modo in cui Dio esprime il suo amore. Che le cose buone diventino dannose non è difficile dimostrarlo. Provate a mangiare sempre del cioccolato. Vi ammalerete in fretta. Riposatevi spesso, la vostra salute si allontanerà. Diamo ai nostri figli tutto quello che vogliono, ne faremo dei delinquenti. Se non sappiamo controllare i nostri figli è perché hanno troppa libertà, hanno troppo tempo a disposizione, troppo denaro da gestire. E le cose cattive che diventano utili? Noi pensiamo che il benessere, il denaro, le comodità siano beni inestimabili e che Dio li dà a chi lo ama. Ciò è anche vero. Ma la scrittura afferma che la tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Ecclesiaste 7:3. Il sorriso è importante, ma la tristezza ancora di più. Ci crediamo che sia valevole per noi e per i nostri figli? L'apostolo Paolo ha ritenuto la scheggia della carne un bene prezioso perché non si insuperbisse. E più importante la salute o l'umiltà? La morte di Gesù è stata atroce, eppure per quella morte è scaturito un bene eterno per l'umanità. Nella famiglia si vorrebbe sempre l'intesa e l'armonia, ma senza certi conflitti non si rivela la profondità del nostro amore. In una chiesa noi non vorremmo mai dei contrasti, ma un conflitto affrontato e accettato nel modo giusto produce più armonia e amore. Terreno della L'amore dunque non è sempre gradevole e attraente e, in ultima analisi, non si muove neppure logiche del convenzionale, dell'usuale, del prestabilito, del sempre sul consueto. Impariamo a riconoscere che il vero amore non è sempre gradevole e attraente, perché un giusto discernimento produce una giusta, buona, accettevole convivenza fraterna. Come distinguere la ferita prodotta dall'amore da quella che non proviene dall'amore? Dal suo risultato. Chi ama ferisce ma rimane fedele. L'amore può ferire per recuperare, per migliorare, per edificare, e poi continua a mantenere le promesse, gli atteggiamenti di collaborazione, di pace, di benessere. Chi nella Chiesa pensa di essere un iconoclasta, un eclettico, e produce per amore sofferenza, ferite, scombussolamenti, sarà e rimarrà la testa della Chiesa per condurla sulle vie di Dio.

Proverbi 25, 9. Se vi è l'opinione che occorre sempre subire le offese o che si debba sempre perdonare, essa è nata da una interpretazione errata, da una ingiunzione di Gesù. Porgi l'altra guancia. Se fosse questa la giusta interpretazione, Gesù avrebbe contraddetto la legge di Dio, la quale ci ordina di difendere le nostre cause. Inoltre, se Gesù ci invitasse a subire sempre, il cristiano non dovrebbe mai far valere i suoi diritti. Ma, da quanto mi risulta, nessun figlio di Dio lo fa. In Corinzi 6, 1-8, Paolo non invita i cristiani a sopportare sempre dei torti, ma quale torto? Così, l'ordine di Gesù di porgere l'altra guancia è riferito nell'ambito della fede. Quando un figlio di Dio viene offeso o picchiato perché è un cristiano, deve seguire l'esempio del suo maestro. Diversamente può anche non porgere l'altra guancia. Teniamo presente l'invito di Dio. Non muovere causa troppo in fretta, perché alla fine tu non sappia cosa fare quando il tuo prossimo ti avrà svergognato. Discuti la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro. Proverbi 25, 8-9. L'ordine di Dio è di essere prudenti nel muovere una causa, ma non lo vieta. Vi sono occasioni nelle quali è indispensabile chiarire con un certo conflitto alcuni aspetti della vita, e alcuni cristiani che hanno un'inclinazione accondiscendente possono ritenere il conflitto poco spirituale. Però, spesso il loro atteggiamento non è per opera dello Spirito Santo, ma debolezza di carattere. 6. Non amiamo se si ritiene che i figli non vadano corretti, ma solo consigliati e istruiti. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Proverbi 13 e 24. Correggere un figlio è sempre doloroso per un genitore, dato che i suoi sentimenti sono tremendamente messi alla prova. I figli vanno corretti per tempo, prima che sia troppo tardi. Castiga tuo figlio mentre ci è speranza. Proverbi 19 e 18. E a nulla servono le lacrime quando non ci è più nulla da fare. Teniamo presente l'ordine di Dio. Non risparmiare la correzione al fanciullo. Anche se lo batti con la verga, non morrà. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dallo Sheol. Proverbi 23, 13-14. Lo Sheol in questo caso non è solo il luogo dei morti, perché tutti dobbiamo morire, ma il luogo di perdizione. Per cui il proverbio mette in evidenza che la correzione è uno strumento efficace per indurre il figlio alla salvezza. Non a caso è scritto: la verga e la riprensione danno sapienza. Proverbi 29, 15. Al riguardo ricordiamo ciò che ha detto Finney. Fino a quando i cristiani non avranno motivi più elevati nell'offrire la preghiera, fino a quando non si elevi al di sopra dei sospiri di tenerezza materna e paterna, fino a quando non saranno spinti da sentimenti di simpatia, le loro preghiere e le loro fatiche avranno ben poco effetto. Il che vuol dire che dobbiamo ritenere i figli non solo come doni per i nostri sentimenti, ma anime verso le quali abbiamo la responsabilità di portarli a Cristo. 7. Non amiamo se si ritiene di dover sempre essere cortesi, di condiscendere. Leggiamo nei Vangeli che Gesù si rifiuta di rispondere a chi lo aveva interrogato. Marco 14, 61. Un'altra volta si rifiuta di fare un miracolo. Matteo 12, 38-42. Nel Tempio, preso dall'ira, Gesù rovescia le tavole dei cambiamonete e scaccia fuori coloro che vendevano gli animali per i sacrifici. Matteo 21, 12-17. Come atto di provocazione, Gesù ha spesso guarito di sabato. Matteo mezzogiorno 10. Questi eventi mi portano a essere d'accordo con chi ha detto che tutto il nostro ragionare spesso si riduce a cedere al sentimento. Eppure Gesù ha parlato chiaro: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. La prova del nostro amore per Gesù non è data dai nostri sentimenti, ma dall'osservanza della sua volontà. Non vorrei però lasciare un'impressione sbagliata in relazione ai nostri sentimenti. Essi sono un dono di Dio e non vanno rifiutati, ma devono essere controllati e dominati. Lo scopo di Dio nel tritare i nostri sentimenti è quello di insegnarci a basare la nostra vita cristiana sulla volontà anziché sulla emotività, in modo da arrivare ad amare Lui come atto di volontà e non di emotività. Quando i nostri sentimenti sono conformi alla volontà di Dio, continuiamo il cammino senza porci problemi, altrimenti se vi è una dicotomia tra quello che sentiamo e quello che dobbiamo fare, facciamolo comunque, anche se questo ci costa uno sforzo. A questo proposito, leggiamo uno dei brani più belli della Scrittura per il nostro argomento. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità. E tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio, 1 Giovanni 3:18-22. L'amore che Cristo prova per noi non l'abbiamo compreso dai sentimenti che Egli prova, ma dai fatti. Egli ha dato la sua vita per noi. Proprio perché ha dato la sua vita, il suo sacrificio non rimane solo una rivelazione dell'amore di Dio da ammirare, ma rimane è un esempio da imitare. Noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma il vero amore non si rivela solamente nel sacrificio supremo. Esso si esprime anche in tutti gli atti minori del dare, incoraggiare, porgere una spalla, scrivere una lettera, telefonare, visitare, ascoltare. Proprio per questo, Giovanni invita i credenti a un amore pratico, non teorico o formulato solo verbalmente. Sono i fatti che garantiscono la sincerità delle nostre parole. Solo con i fatti possiamo rendere sicuri noi stessi, perché ogni altra espressione del nostro amore non è sufficiente. L'amore fraterno, espresso solo con della spontaneità ed emotività, è una trappola del diavolo prima per il credente e poi per la Chiesa. Impiegare delle persone nelle attività di Chiesa solo perché sono esuberanti o fanno professione di fede è una insidia nella quale le Chiese cadono. Se i diaconi e gli anziani devono essere provati prima di ricoprire il loro ruolo, lo stesso vale per chi si cura di una qualsiasi attività di Chiesa. Sono i fatti, e solo i fatti, devono convincere i credenti o la Chiesa della bontà della scelta fatta. Non dobbiamo dimenticare due grandi verità. La prima la troviamo espressa nel proverbio: labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Proverbi 26:23. Esistono delle grandi professioni di fede che non scaturiscono da un cuore retto. Quando la Scrittura si riferisce a un cuore malvagio, non indica necessariamente qualcuno che è desideroso di compiere il male, ma anche a chi non sa di affermare qualcosa che non corrisponde con la realtà. Come conoscere queste motivazioni sbagliate? Dai fatti, nient'altro che dai fatti. La seconda verità è che i grandi slanci di entusiasmo cristiano devono essere provati. Al tempo di Esdra, quando si costruiva il tempio, alcuni uomini si avvicinarono a Zorobabel e ai capi famiglia e dissero loro: «Noi vogliamo costruire con voi, perché, come voi, noi cerchiamo il vostro Dio. E gli offriamo sacrifici dal tempio di Esar-Addon, re d'Assiria, che ci ha fatti venire in questo paese». Esdra 4:2. Chi poteva mettere in dubbio simili slanci di fede, di zelo, di consacrazione? Furono i fatti a mettere in evidenza la sincerità del loro zelo. Quando Zorobabele e i capi famiglia negarono la possibilità di aiutarli, leggiamo: «Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano». Esdra 4, 4-5. La loro reazione a rifiuto di collaborare mise in evidenza le loro motivazioni. Volete conoscere le vere motivazioni del prossimo? Mettetelo in difficoltà, contrastatelo, disapprovatelo. Chi non sa ricevere umiliazioni, torti, disapprovazioni nel campo di Dio, non è degno di servire colui che è stato disprezzato e abbandonato dagli uomini. I vantaggioso, che ci si contraddica, che si pensi male o meno bene di noi, anche se retto sia il nostro cuore, e rette le nostre intenzioni, ciò serve a conservarci umili e ci premunisce dalla vanagloria. Si è più portati a cercare la testimonianza interiore del Signore quando i nostri simili ci disprezzano palesemente e non pensano bene di noi. Per questo l'uomo dovrebbe consolidarsi tanto in Dio da non sentire il bisogno di andare elemosinando molte consolazioni eterne dal libro Imitazione di Cristo. Per quanto la certezza del cristiano abbia basi solide, il suo cuore può aver bisogno a volte di essere rassicurato. Non è un'esperienza né insolita né rara che la serena sicurezza del cristiano sia disturbata dalla coscienza, ma i dubbi del nostro cuore debbono essere tacitati dai fatti. L'amore del cristiano può essere melenso, ma quando si manifesta a fatti, cose reali che possiamo indicare, e non qualcosa che abbiamo professato, sentito, immaginato o inteso, allora e solo allora noi rendiamo sicuri i nostri cuori davanti a Dio. Vi è ancora un altro elemento più valido per rassicurare la nostra coscienza, la quale è ben lontana dall'essere infallibile, la testimonianza di Dio. Quando la condanna della coscienza è ingiusta, possiamo far ricorso a Dio che è più grande del nostro cuore. La testimonianza di appartenere a Dio riposa su quello che facciamo e non perché ci sentiamo in regola con Dio. Coloro che basano la loro vita sulle emozioni non potranno mai essere veramente felici, o almeno avere una felicità duratura. La stessa certezza della salvezza riposa su quello che ha affermato Dio, confermata dal nostro agire e non su ciò che sentiamo. Conclusione. Abbiamo terminato la prima parte del nostro studio sulla convivenza fraterna. Abbiamo messo in evidenza che essa dipende dal modo in cui giudichiamo e da come ci giudichiamo. Gesù ci ha ordinato di giudicare, di valutare, e per fare ciò dobbiamo meno eliminare alcune barriere che ci impediscono di comprendere il nostro prossimo. Meno tenere presente che noi cogliamo solo alcuni aspetti della personalità del prossimo. Meno accettare le nostre limitazioni. Meno comprendere bene in che cosa consista l'amore. Meno esaminare noi stessi. Meno lasciarsi indagare da Dio. Colui che non si esercita a lasciarsi indagare da Dio non ha il diritto di giudicare gli altri. Un cristiano sincero e umile pregherà con il salmista: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Salmo 139, 23-24. Molto probabilmente la lezione più difficile da imparare è quella di conoscere se stessi, lasciarsi investigare da Dio, comprendere quanto siamo corrotti, superficiali, peccatori e privi di ogni bene. In ultima analisi significa conoscere il lato oscuro della nostra personalità, la nostra ombra, e porsi di fronte alla propria ombra, oltre che ad essere un dovere ci vuole coraggio. Ma ne vale la pena perché incontrare se stessi è il primo passo verso un'evoluzione positiva della propria persona. E solo allora, dopo aver riconosciuto e tolto la mia trave, posso in seguito togliere, con amore e per la gloria di Dio, la pagliuzza al prossimo. Come togliere la trave? Certamente con la nuova nascita, perché nel ricevere lo Spirito Santo il credente può giudicare ogni cosa, 1 Corinzi 2:1-4, con la mente di Cristo, 1 Corinzi 2:1-6. Se chi ha posto fede in Cristo giudicherà gli angeli, quanto più giudicherà le cose di questa vita. 1 Corinzi 5:3. Facciamo nostre le parole di Gesù. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Noi abbiamo bisogno del perdono di Dio, della sua misericordia, della sua grazia. Dio ci concede tutto ciò a una condizione: che perdoniamo i torti fattoci del prossimo. Questa è l'anima della convivenza fraterna. giudicare nel senso di giudizio condanna. Quando ero bambino e frequentavo la scuola, nell'ora di italiano si leggevano dei racconti per imparare a leggere. Spesso si leggevano delle storielle che contenevano una morale cristiana. Ecco una di queste. Un giorno un uomo decise di intraprendere un viaggio con sua moglie, il bambino e il suo mulo. Per non stancare subito il mulo, decise che tutta la famiglia andasse a piedi. Alcuni passanti li videro ed esclamarono: «Guarda quell'uomo con, è sciocco, ha comprato un mulo per andare a piedi». Allora l'uomo, sensibile alle critiche, salì sul mulo. Più avanti un gruppo di persone commentò: «Guarda quell'uomo con, è crudele, lascia andare sua moglie a piedi e lui se sta sul mulo». L'uomo scese dal mulo e fece salire sua moglie. Continuando il cammino, alcuni passanti lo biasimarono: «Quell'uomo è proprio senza cuore, lascia andare a piedi suo figlio». L'uomo fece scendere sua moglie e fece salire suo figlio sul mulo. Fatto un tratto di strada, alcuni passanti commentarono: «Quell'uomo è proprio un balordo. Ha un mulo e lascia andare a piedi sua moglie quando ha la possibilità di salire sul mulo». L'uomo fece salire sul mulo anche la donna, ma poco dopo sentì mormorare: «Quell'uomo è proprio un babbeo, viaggia a piedi quando ha la possibilità di salire sul mulo». Così, per far tacere ogni mormorio, tutta la famiglia salì sul mulo. Ma alcuni passanti, nel vedere quella scena, commentarono con disprezzo: «Quell'uomo è proprio senza cuore, caricare così un povero mulo». E fu così che tutti e tre scesero dal mulo e lo portarono in spalla. Questo episodio mette in evidenza quanto sia deleteria la critica. Il giudizio condanna. Fra tutti i peccati, la critica, il biasimo, il giudizio condanna, rimangono gli atteggiamenti più frequenti e, a volte, tollerati in una chiesa. Per questo, la tunica della Chiesa di Cristo è stata lacerata più di una volta. Leggiamo quindi la parola di Dio con la ferma intenzione di ubbidire. Un fratello offeso è come una città forte, e le liti come le sbarre di una fortezza. Proverbi 18 e 19. Questa sola verità dovrebbe produrre nel cristiano il dovere di mantenere la castità della lingua, oltre che quella degli occhi. Ogni volta che un fratello è stato offeso è quasi meno, e dico quasi perché la misericordia di Dio è grande e impossibile recuperare un vero rapporto fraterno. Le liti fra credenti lasciano dei segni, o meglio dei solchi, che durano nel tempo, e come sbarre impediscono un qualsiasi vero rapporto. L'ordine di Gesù è chiaro: non dobbiamo giudicare il fratello per condannarlo, per criticarlo. Eppure, questa è la trasgressione più frequente nelle chiese. Ogni mancanza o peccato hanno le loro conseguenze, ma gli effetti di una critica, di un giudizio condanna, hanno delle ripercussioni a volte catastrofiche: inimicizia, rancori, amarezze, vendetta, una chiesa divisa, stroncano iniziative e progetti, frustrano i figli di Dio, demotivano i conduttori di chiesa. Non per nulla gli apostoli hanno ammonito più volte i credenti a non cadere in questo peccato. Ecco uno di questi ammonimenti: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei? Che giudichi il tuo prossimo? Giacomo 4, 11-12. La Scrittura ci ordina di non sparlare agli uni degli altri. Sparlare significa diffamare, malignare, screditare, far maldicenza. Spesso quest'ultimo peccato è ritenuto una brutta abitudine, ma Dio lo elenca con i peccati di adulterio e di fornicazione. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. 1 Corinzi 5, 9. Dobbiamo fare una differenza tra la calunnia e la maldicenza. La calunnia è dire o attribuire ad altri cose non vere. e, maldicenza le riferire agli altri delle azioni moralmente riprovevoli avvenute, davvero con nome e circostanze che permettono di identificare l'autore del male e che non hanno il diritto né il dovere di conoscere. Proprio per questo la maldicenza fa torto a tre persone. Innanzitutto a quella che parla, a quella di cui si parla, infine a quella che ascolta. Purtroppo la critica, il giudizio condanna è una piaga tanto comune che il corpo di Cristo non la nota anche quando ne è stato tutto infettato. Nessun credente ha il diritto di ergersi a giudice perché un giudice è colui che è investito dell'autorità di giudicare per condannare e nessun credente ha ricevuto questa autorità. Il Signore ha comandato di giudicare ma non ci ha mai autorizzato a diventare giudici dei nostri fratelli. Egli ha comandato di giudicare delle cose della vita ma non di emettere sentenze. Il male che possiamo produrre con la lingua è incontenibile e un giudizio condanna ferisce spesso un fratello più di qualsiasi altra cosa. E, più che opportuno rileggere uno dei brani più significativi riferiti alla lingua, Giacomo 3:1-12. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli, perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta.com è fra le nostre membra. La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita. Ed è infiammata dalla Geenna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. La lingua è come un fiammifero acceso in un pagliaio, un pericolo costante. Come recita un vecchio proverbio armeno, è meglio scivolare con i piedi che con la lingua. Secondo Giacomo, il cristiano che non è impegnato a estirpare dalla sua vita la tendenza di sparlare degli altri, tutte le sue attività religiose sono inutili. Se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Giacomo 1:26-27. La lingua è un piccolo membro che forma il carattere di un uomo. Le parole di un uomo possono cambiare drasticamente le situazioni della vita, come per esempio il sì del matrimonio o la testimonianza in un processo. La lingua non agisce come un fucile, ma come un veleno, silenzioso e lento. Vi sono accuse, giudizi, critiche, condanne, che producono il loro effetto in Fausto anche dopo 10-20 anni e anche dopo la morte. Un giorno un cristiano andò a visitare un fratello in fede molto ammalato. Vedendolo ormai prossimo alla morte, gli confessò un suo particolare peccato, la maldicenza. In seguito promise di rimediare ai suoi errori. Il fratello infermo lo invitò a prendere un cuscino, ad aprirlo e a buttare le piume fuori dalla finestra. Come le piume furono nell'aria, il vento le sparse ovunque. Il fratello aggiunse: «Ora vai a raccogliere tutte le piume». «Impossibile», rispose l'altro, «ormai si sono sparse dappertutto». Il fratello malato concluse: Così è pure della tua maldicenza. Il male che hai detto si è sparso in tutte le direzioni e non puoi più rimediare. Sì, è impossibile ridare la stima e la fama alla persona che si è disonorata. La lingua è l'unico strumento che si affila con l'uso, perché con essa impariamo a colpire o mentire abilmente. Trovo diabolica la risposta nel seguente episodio. Due donne discutono e una di queste, abituata a offendere, ingiuria l'altra. Questa, amareggiata, rivela all'altra che è offesa. La risposta, in attesa di quest'ultima, è: come sei permalosa. Conosco persone, sia ate, sia credenti, molto abili nel rispondere. Un giorno, sul lavoro, vidi un operaio che svolgeva un lavoro sbagliato. Gli chiesi il perché, ed egli mi rispose: non bisogna menare l'asino dove vuole il padrone, io faccio ciò che desidera il padrone. La risposta era più che giusta. Il giorno dopo vidi che eseguiva un lavoro che sapevo sbagliato per il datore di lavoro. Perché ti comporti così pur sapendo che il datore di lavoro non è d'accordo? E lui pronto: se il tuo padrone ti dice che devi andare nel fosso ci vai? No. E allora? In questo modo aveva una risposta per giustificarsi su tutto. Ma non sarà così quando saremo davanti al tribunale di Dio, perché ogni bocca bugiarda sarà chiusa. Salmo 63:11. La lingua è definita nella parola di Dio. Piena di malizia. Salmo 10:7. Altera. Salmo 12:3. Bugiarda. Salmo 109:2. Un flagello. Giobbe 5:21. Una freccia micidiale. Geremia 9:8. Un male continuo. Giacomo 3:8. Piena di veleno mortale. Giacomo 3:8. Un rasoio affilato. Salmo 52:2. Con un quadro del genere dovremmo tremare ogni volta che apriamo bocca, e molto di più quando facciamo delle valutazioni negative. Satana conosce molto bene le arti per fare in modo che un giudizio di maldicenza abbia il suo effetto. Generalmente non usa una persona che abbia una cattiva reputazione, ma una che abbia una certa autorità. Vi è un'altra ragione perché il giudizio della maldicenza si propaga a macchia d'olio. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie. Proverbi 18:8. Come le cose buone piacciono a tutti, sono attraenti, piacevoli, così sono le parole del maldicente. Esse sono interessanti e piacevoli da ascoltare per chi si nutre del pettegolezzo. Capisci ora perché le cose non vere si propagano più in fretta della verità? Agostino, per impedire la maldicenza che si faceva a tavola, aveva fatto scrivere su di una tavoletta la seguente frase: chi cerca un qualsiasi nome da macchiare, non potrà mai più con me desinare. La parola di Dio è chiara. Nel condannare un fratello, ci pone automaticamente in uno stato di condanna. Mentre condanniamo, siamo condannati. Ma perché siamo così inclinati al giudizio critica nonostante che sia un boomerang fatale? La ragione è semplice, perché in quel momento, senza rendercene conto, ci sentiamo migliori, ci sentiamo superiori. La beffa, invece, è che quando condanniamo un fratello, siamo nella posizione di credenti deboli. Or accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Romani 14:1-3. Da questo brano comprendiamo che ci sono di due tipi di cristiani, i deboli e i forti. Il forte disprezza chi è debole, ha una conoscenza che gonfia, non motivata dalla carità. 1 Corinzi 8:1. La parola di Dio ci ricorda che chi sprezza il prossimo è privo di senno. Proverbi 11:12. Il disprezzo è molto comune nelle persone virtuose, brave, capaci, migliori, sagge. Un giorno, sul lavoro, mi resi conto di commettere questo grave errore. Da poco era stato assunto un ragazzo, e ridevo disprezzandolo per come lavorava male. A un tratto mi venne in mente questo versetto. e pensai, ma anch'io all'inizio lavoravo così. Da allora ho preso risolutamente la decisione di non disprezzare, ma solo di insegnare e correggere. E ci sono riuscito. Il debole invece è colui che giudica il fratello forte e non ammette un comportamento diverso dal suo. Il bene e il male sono come lui li ritiene e non accetta che altri possano agire nel giusto anche con un comportamento diverso dal suo. Tu ti trovi in questa categoria? Hai mai detto ad un altro che sbaglia per delle cose di poca importanza? Come si può notare, chi giudica è sempre il debole e non colui che è forte. Così, per conoscere lo stato spirituale dei credenti, è sufficiente notare come valutano il fratello. Potremmo coniare la frase «Dimmi come giudichi e ti dirò chi sei». Non solo. Da come giudica il suo prossimo, possiamo comprendere anche che opinione uno ha di se stesso. Per un periodo di tempo mia moglie mi diceva «Se torno a nascere, voglio nascere ellero e sposarmi Lidia». Anche se il complimento era rivolto a se stessa, mi stava dicendo che avevo fatto una scelta intelligente. E aveva ragione. Conclusione. Se un fratello disprezza è perché ha più conoscenza, è più istruito, è sicuro. Se giudica, è perché è debole, non ha abbastanza conoscenza, è insicuro. Tu puoi conoscere il tuo stato spirituale, da come valuti il prossimo. Quando sono diventato un figlio di Dio, Satana ha usato la mia coscienza, con tale prepotenza, da turbare la mia pace. Più leggevo la parola di Dio, più mi vedevo malvagio, peccatore. Il senso di colpevolezza non era quello comune a tutti, perché io ero arrivato a pensare di essere l'anticristo. Non so se qualcun altro può comprendere tale sentimento infernale, ma l'avversario non aveva risparmiato nessun colpo. E, evidente che da quella posizione non avevo il coraggio di guardare gli altri. In seguito, la lettura della parola di Dio ha purificato ogni mio senso di colpa, mi ha dato una pace e una gioia inesprimibili, mi ha trasportato nel regno del benessere spirituale e fisico, mi ha insegnato di apprezzare e godere dei doni elargiti ai miei fratelli. Così, per quella ferita inferta da Satana sulla mia persona, in seguito non ho mai avuto un giudizio condanna per nessuno. Come potevo condannare il fratello io che avevo toccato la porta dell'inferno? Se fossi salito al terzo cielo, potevo anche inorgoglirmi, ma una simile esperienza ha lasciato una traccia indelebile. Così, ancora una volta, mentre il maligno pensava di avermi inferto il colpo finale, ora ha a che fare con un figlio di Dio che si è buttato senza riserve e senza rimpianti nelle mani amorose di Gesù Cristo. Non solo. Mentre Satana pensava di annientarmi completamente, ora mi ha anche procurato un pizzico di vanto. 1 Corinzi 1:31. La guerra più ferrata si fa nelle file più forti del nemico. Episodi di persone che hanno dato dei giudizi sbagliati. Non vi è nulla di più deleterio di un giudizio condanna, della critica. Questo peccato è talmente frequente che Bibbia narra episodi di persone coinvolte in esso. La parola di Dio è straordinaria. Proprio per questo, descrive grandi atti di fede di alcuni uomini, ma anche i loro lati negativi. Eccone alcuni. 1 Re 19, 9 e 18, il giudizio di Elia. Elia aveva glorificato Dio, smascherando e uccidendo i 400 profeti di Baal. Ma Isabel, la moglie di Acab, giurò di far morire il profeta dell'Eterno. Elia fugge e giunge al monte Horeb, il monte di Dio. Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita». Dio gli disse: «Esci e fermati sul monte davanti all'Eterno», ed ecco, passava l'Eterno. Un vento Forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro, come udì questo. Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco una voce che gli diceva. Che fai qui, Elia? Egli rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Da questo episodio traiamo due insegnamenti. Uno, Elia aveva una buona opinione di se stesso. E aveva ragione. Nessuno aveva avuto il coraggio di opporsi al peggiore re di Israele, il re Acab. Avere una buona opinione di se stessi non è sbagliato. Paolo ordina ai Romani di avere un concetto sobrio di se stessi. E un concetto sobrio è riconoscere le proprie qualità. Elia però non si era fermato al concetto sobrio, ma credeva di essere rimasto l'unico fedele al suo Dio. Così l'Eterno gli fa sapere che in Israele vi erano non solo 7, né 70, né 700, ma 7.000 uomini fedeli. 7.000 uomini che non avevano abbandonato il patto con il Dio di Israele, che non avevano adorato altri dei. Ancora oggi, certi credenti, e anche servitori di Dio, credono di essere unici, pensano di essere i soli a sfidare il sincretismo religioso. Nel loro intimo si sentono degli eroi, i primi della classe, perché come per Elia la loro fede è in prima linea. Anche la fede di Elia era evidente, ma altri 7.000 uomini non avevano adorato la divinità di Baal senza che altri lo avessero notato. Vivevano in mezzo al popolo di Israele, ma non erano di Israele. 2. Nel regno di Dio vi sono persone che per forza di cose sono in mostra. Mentre camminano e combattono, hanno una folta di gente che applaude, incoraggia. Le lodi e gli apprezzamenti sono il loro pane quotidiano. La stima è all'ordine del giorno. Ma vi è tutta una serie di cristiani fedeli che amano il Signore, che sono zelanti e non hanno applausi. Lavorano in segreto, sono schivi alle lodi, hanno un continuo sentimento di indegnità, sono disprezzati, non si sentono eroi. Ma poiché non vi è nulla di nascosto, che non sarà manifestato, né di segreto che non debba essere conosciuto e portato alla luce, Luca 8:17, un giorno conosceremo la loro fedeltà e consacrazione. In cielo li noteremo per le corone che porteranno ai piedi di Gesù. Per non cadere nella trappola del diavolo, cioè l'orgoglio, basterebbe realizzare tre virtù: essere attratti dalle cose umili, non stimarsi saggi da se stessi e non aspirare a cose troppo alte. Romani 12:16. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Salmi 131. 1. O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Se i credenti fanno giudizi sbagliati, evidentemente dimostrano che non hanno queste tre virtù. Che l'episodio di Elia serva di monito per coloro che pensano di essere gli unici e infonda coraggio a coloro che sono fedeli a Gesù Cristo nel segreto. Romani 12:10. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. 2. 1 Samuele 1:9-18. Il giudizio di Eli. Al tempo dei giudici, vi era un sacerdote di nome Eli che serviva nel tempio di Dio. Anna, una delle due mogli di un uomo di nome Elcana, andò nel tempio per pregare. Ora il sacerdote Eli stava seduto sul sedile, all'entrata del tabernacolo dell'Eterno. Nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno, piangendo dirottamente. Poi fece un voto, dicendo, «O Eterno, degli eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa. Mentre essa prolungava la sua preghiera, davanti all'Eterno, Eli stava osservando la sua bocca. Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva. Per questo Eli pensava che fosse ubriaca. Così Eli le disse: «Fino a quando sarai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!» Ma Anna rispose e disse: «No, signor mio, io sono una donna afflitta nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda inebriante. Ma stavo effondendo la mia anima davanti all'Eterno. Non considerare la tua serva una donna perversa, perché è l'accesso del mio dolore e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora». Allora Eli le rispose: «Va in pace, e il Dio di Israele ti conceda ciò che gli hai richiesto». Ella rispose: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Così la donna se ne andò per la sua via. Prese cibo e il suo aspetto non fu più triste. Il sacerdote Eli aveva il compito di controllare che nel tempio ci fosse rispetto e ordine. Mentre osservava Anna che muoveva solo le labbra, pensò che fosse ubriaca. Il suo giudizio non era certamente scaturito dalla malignità, perché molto probabilmente altre volte aveva avuto ragione di giudicare ubriache certe persone. Proprio per questo egli osservava attentamente ogni persona. Desiderava che il nome di Dio fosse onorato. E così, senza neppure verificare se quello che pensava fosse giusto, la condannò. L'apparenza e l'esperienza avevano giocato un brutto tiro a Eli, per cui in questa occasione cadde in un giudizio condanna. Quante volte si cade in questo triste errore? L'esperienza comune a volte ci impedisce di giudicare rettamente il presente. Spesso, una volta che abbiamo inquadrata una persona, l'abbiamo congelata per sempre in quello stato. Se l'abbiamo giudicata pigra, rimarrà sempre pigra. Se l'abbiamo giudicata incapace, rimarrà sempre incapace. In questo modo impediamo il progresso del prossimo. Non gli diamo l'opportunità di migliorare. Ho letto l'episodio di un predicatore in America che alla fine della riunione chiese una colletta. Per raccogliere il denaro chiese l'aiuto ad uno dei ragazzi che sapeva essere il ladro più incallito. Quando fu il momento di consegnare la colletta, fu tentato di scappare, ma poiché non voleva deludere il pastore, gli consegnò tutto il denaro. Da quel giorno divenne uno dei più onesti cittadini. Così è pure per i nostri figli. Spesso essi diventano secondo il giudizio che noi abbiamo di loro. Quando Davide, mio figlio, aveva pochi anni, faceva rizzare i capelli a mia moglie e a mia mamma ogni volta che andavano a passeggio. Non stava mai fermo, attraversava improvvisamente la strada. Era incontrollabile. Decisi di intervenire. Presi Davide e gli dissi che avevo fiducia di lui, che non avrebbe mai attraversato la strada, se non al mio ordine. Una volta usciti di casa e saliti sul marciapiedi, egli corse fino in fondo, ma si fermò aspettandomi. Il rischio era certo, il cuore era in gola. Ma la mia fiducia lo ha reso ubbidiente. È evidente che se non avesse ubbidito avrei agito con le maniere forti. Ma anche le maniere forti avevano lo scopo di arrivare ad avere fiducia di lui. Dobbiamo sempre partire in positivo. Certamente saremo anche raggirati. Non dico delusi, perché per esserlo occorre prima essere illusi. E chi conosce la vita non si illude, ma questo non è un problema nostro. Penso spesso a re di Israele Acab. Nessuno di noi avrebbe puntato su di lui per una buona azione. Benché nessuno sia stato malvagio come lui, ha saputo umiliarsi come pochi, al punto di toccare il cuore di Dio. Serviamoci quindi dell'esperienza, ma non facciamo dell'esperienza un metro infallibile per giudicare il nostro prossimo. Felici quelli che sanno interpretare con benevolenza gli atteggiamenti degli altri. Saranno giudicati ingenui, ma questo è il prezzo dell'amore. 3. 1 Samuele 17, 28-30. Il giudizio di Eliab. I fratelli più grandi di Davide erano andati in battaglia, per ordine di suo padre Davide era giunto nell'accampamento israelita proprio nel momento in cui Golia, un filisteo alto circa 3 metri, sfidava i guerrieri giudei. Tutti avevano paura, compreso i fratelli di Davide, ma Davide era disposto a combattere con lui. Ecco cosa leggiamo nella parola di Dio. Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: «Perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia?» Davide rispose: «Che ho io fatto ora? Non era che una semplice domanda». Eliab pensava di conoscere il fratello minore, Davide. Come in ogni famiglia, i fratelli crescono insieme, giocano, litigano, si amano, hanno occasione di conoscersi nelle più disparate circostanze. Molto probabilmente Eliab aveva avuto occasione di sentire Davide raccontare ciò che disse a Saul. «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portar via una pecora dal gregge. Io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue fauci. Se poi quello si rivoltava contro di me, io l'afferravo per la criniera, lo colpivo e l'ammazzavo. 1 Samuele 17:35. Forse, per questo Eliab giudicò la fede di Davide come un atto d'orgoglio e di malignità. Egli ha vinto degli animali, ora pensa di essere in grado di vincere un uomo altro 3 metri. Sbruffone! Quante volte abbiamo un giudizio condanna e possiamo scoraggiare con il nostro giudizio altri credenti che hanno più fede e amore di noi. Spesso non facciamo altro che vedere negli altri i difetti che abitano nel nostro cuore. Un uomo inclinato alla maldicenza vedrà negli altri la maldicenza. Un uomo inclinato alla concupiscenza vedrà che gli altri sono pieni di concupiscenza. Un uomo maligno vedrà tutti gli altri maligni. Avete mai visto un bambino di pochi anni essere sospettoso che qualcuno sia adultero? No. Perché? Semplicemente perché egli non conosce ancora questa inclinazione. Così se noi fossimo più puri nei confronti degli altri e più sospettosi del nostro cuore, non avremmo giudizi condanna ad ogni piè sospinto. Per molto tempo non ho compreso un proverbio, ma alla luce di quello che stiamo esaminando mi sembra di aver trovato la risposta. Come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. Proverbi 27:19. L'acqua non ha alcuna immagine in se stessa. Si limita a riflettere quello che in lei si specchia. Quando una persona osserva uno specchio d'acqua limpida, vede riflessa la sua immagine nell'acqua perché è uno specchio. In questo proverbio, il cuore del mio fratello fa la funzione di specchio. Come l'acqua riflette ciò che siamo, il cuore del mio fratello non fa altro che riflettere ciò che io sono. In definitiva, ciò che vedo nel prossimo non è altro che la mia immagine. Ancora una volta possiamo coniare un proverbio. Dimmi come giudichi e io ti dirò chi sei. Un giorno un uomo di una tribù non toccata dalla civiltà trovò uno specchio. Guardò nello specchio e vide un volto che assomigliava tanto a suo padre. Nascose lo specchio e di tanto in tanto l'andava a prendere e, con venerazione, baciava l'immagine che vedeva. Sua moglie, insospettita della gioia improvvisa del marito, lo seguì e scoprì che baciava lo specchio. Quando il marito se ne fu andato, prese lo specchio e, guardando, vide il volto di una donna. «Quel farabutto», disse tutta indispettita, «mi tradisce con una donna e oltretutto non è neanche bella». Prese lo specchio e andò dalla sua amica per rivelargli il segreto. Questa, guardando nello specchio, disse: «Hai ragione, la donna non è bella e la vedo anche antipatica». In poco tempo lo specchio passò per le mani di tutta la tribù e ognuno trovava dei difetti nell'immagine che vedeva. L'episodio ci può far sorridere, ma che Dio ci dia di riflettere attentamente prima di emettere dei giudizi. Felici quelli che pensano prima di agire e che pregano prima di pensare. 4. Matteo 26, 31-35. Il giudizio di Pietro. Pietro era certamente l'uomo più intraprendente nel gruppo dei discepoli di Gesù e non ha torto. Aveva una buona Dopo che ebbero consumato l'ultima cena, leggiamo, Gesù disse loro, «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto, io percuoterò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Pietro, rispondendo, gli disse, «Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Pietro era certamente una persona importante fra i discepoli. Era uno dei tre amici intimi di Gesù. E aveva ricevuto la promessa che avrebbe avuto le chiavi del regno. Le chiavi del regno! Non era poco. Ma aveva commesso un errore. Era sicuro d'essere migliore degli altri. Per questa sua opinione, ha fatto sì che tutti gli evangelisti raccontassero non solo lo smarrimento dei discepoli, ma puntualizzassero anche il rinnegamento da parte di Pietro ripetuto per tre volte. Un grande Pietro che compie un grande scivolone. Ed è ciò che succede anche a ognuno di noi. Prima della rovina, il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Proverbi 18 e 12. Questo principio ci avverte che la caduta è sempre preceduta dall'orgoglio. Se crediamo a quanto è scritto, esaminiamo certe cadute, certi fallimenti, e scopriremo che precedentemente abbiamo mancato di umiltà. Occorre umiltà per dichiarare che non avevamo umiltà, per cui se non c'è e umiltà difficilmente possiamo riconoscere ciò che la Scrittura dichiara. La parola di Dio riconosce la necessità dell'umiltà. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. 1 Pietro 5, 5 a 7. La convivenza fraterna deve essere caratterizzata da tre virtù cristiane. 1. L'umiltà. 2. L'umiliazione. 3. La fiducia in Dio. Contemporaneamente vi sono tre promesse. 1. Dio si oppone, contrasta la persona orgogliosa, ma concede alle persone umili. 2. Dio innalza chi si umilia. 3. Dio ha cura e si interessa dei suoi figli. L'orgoglio è certamente uno dei peccati più nascosti nella nostra vita e nascosto come movente, ma non nell'azione. Lo hanno dimostrato gli esempi di Elia, di Eli, di Eliab e di Pietro. Purtroppo, di tutti i peccati, l'orgoglio è quello che ha le conseguenze più nefaste. Per il cherubino che era alla presenza di Dio, Satana, vi è stata una condanna eterna. Per gli uomini che rifiutano la signoria di Cristo, vi è la stessa sorte. Per il cristiano, vi è la perdita di grandi benedizioni spirituali. Ma grazie siano rese a Dio, l'orgoglio può essere vinto riconoscendolo. Se non siamo sempre in grado di riconoscere l'orgoglio, possiamo riconoscere il nostro modo di giudicare. Da come giudichiamo noi siamo. Noi siamo come giudichiamo. Correggiamo il nostro giudizio e limiteremo l'esprimersi del nostro orgoglio. Limitiamo il nostro orgoglio e correggeremo il nostro giudizio. O Yahweh, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno, non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono Yahweh. Anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta, non dà il suo denaro ad usura e non accetta doni. Contro l'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso. Salmo 15. Questo salmo dovrebbe essere imparato a memoria, perché quando la parola di Dio abita nel nostro cuore e nella nostra mente, essa lavora giorno e notte, rendendoci sempre più simili a Cristo. Il credente non ha bisogno di sforzarsi, ma solo di essere nutrito abbondantemente della parola di Dio. Ed essa compirà la sua opera in noi. Le giuste condanne. La vita di grandi uomini di Dio come Elia e Pietro hanno messo in evidenza come sia facile cadere in un giudizio alterato. Una errata valutazione dei fatti può portare alla maldicenza e, peggio ancora, alla calunnia, cioè attribuire a un innocente dei comportamenti cattivi mai avvenuti. Ma come comportarsi quando i giudizi hanno un giusto fondamento? Quando un fratello nel condannarne un altro afferma delle verità, non sta forse mettendo in evidenza ciò che è giusto? Non rientra ciò nella volontà di Dio? Prendiamo un esempio da un episodio nella vita di Davide. In un momento di debolezza, il re Davide commise tutta una serie di peccati, tra i quali l'adulterio e l'omicidio di uno dei suoi migliori guerrieri. Per questo Dio gli disse tramite il profeta Natan: «Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spada Uraia lo Itteo, hai preso per moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria lo Itteo per essere tua moglie. Così dice l'Eterno. Ecco, io farò venire contro di te la sciagura dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro, che si unirà con loro in pieno giorno. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele alla luce del sole». 2 Samuele 12, 9-12. Tutto il popolo aveva udito la sentenza di Dio. Quando in seguito Absalom tentò la vita di Davide, molto probabilmente la gente non ne rimase sorpresa. Proprio per questo, quando Davide fuggiva da Gerusalemme per salvare la sua vita e quella degli altri, qualcuno ha giudicato la situazione. Quando il re Davide giunse a Baurim, ecco uscire di là un uomo della stessa parentela della casa di Saul, di nome Shimei, figlio di Gera. Egli usciva proferendo maledizioni e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Mentre malediceva Shimei, diceva: «Vattene, vattene, uomo sanguinario e scellerato! L'Eterno ha fatto cadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. E l'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figlio. Ed eccoti ora preso nella tua stessa malvagità, perché sei un uomo sanguinario». Allora Abishai, figlio di Zeruia, disse al re: «Perché questo cane morto deve maledire il re mio signore? Ti prego, lascia che io vada a troncargli la testa». Ma il re rispose: «Che ho da fare con voi, figli di Zeruia? Per cui lasciatelo maledire, perché l'Eterno gli ha detto: maledici Davide. E chi può dire? Perché fai così?» Poi Davide disse ad Abishai e a tutti i suoi servi: «Ecco mio figlio, che è uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita, a maggior ragione quindi questo beniaminita. Lasciatelo stare e lasciate che maledica, perché gliel'ho ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno vedrà la mia afflizione, e l'Eterno mi farà del bene in cambio delle sue maledizioni di oggi». 2 Sa 16, 5-12. Nel proferire la sua maledizione, Shimei stava affermando il vero, incolpava il re di una cosa giusta. Ricordava a Davide che egli stava ricevendo la giusta punizione di Dio, ma nonostante ciò era nel torto. Perché non era il modo per riprendere il prossimo. Shimei non era mosso da compassione. Non parlava di Davide con un cuore addolorato, stava piuttosto vomitando dei rancori che aveva nel cuore. Purtroppo questo è l'atteggiamento che hanno certi credenti nel riprendere il prossimo. Stanno vuotando un sacco di rancori e di amarezze accumulate durante la convivenza fraterna. Davide aveva capito lo spirito di Shimei e per questo non replicava. Nonostante fosse istigato da altri, non ha risposto a Shimei per le rime, né ha reagito come avrebbe potuto fare perché egli era re. Se un fratello giudicato è più spirituale del suo giudice, starà in silenzio per il bene di chi lo sta giudicando. Aspetterà che chi lo giudica trovi più serenità ed equilibrio nell'esporre i suoi punti di vista. Diversamente sarà costretto a rispondergli in modo tale che sarà umiliato. Il silenzio di un uomo di Dio è tanto significativo quanto una risposta. Davide ha lasciato la situazione nelle mani di Dio e alla fine, solo alla fine, lui è stato benedetto. Mentre Shimei ha portato le conseguenze del suo giudizio condanna. Il compito del cristiano è essere misericordiosi, piangere con chi piange, anche se chi soffre porta le conseguenze dei suoi errori. Se il nostro comportamento verso coloro che subiscono il giusto giudizio di Dio non è corretto, ci aspetta una dura condanna. Chi deride il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito. Proverbi 17:5. John Hyde, un missionario in India, narra un episodio nel quale Dio gli aveva insegnato a non giudicare i fratelli. Era andato in montagna per un periodo di riposo e aveva il peso per la vita spirituale di un certo pastore. Si inginocchiò e pregò: «Signore, tu sai che quel fratello è freddo», stava per dire. Ma il qual momento si sentì ripreso da Dio e allora pregò: «Signore, fammi vedere le sue buone qualità». A un tratto si rese conto come quel fratello era consacrato alla cura delle anime ed era un marito esemplare. Questo episodio mi porta ad affermare quanto segue. Quando avete qualcosa contro qualcuno, ditelo al Signore in preghiera, e Dio poco alla volta saprà darvi il giusto equilibrio per valutare i fratelli. I peccati rimangono peccati, ma quando abbiamo un giudizio di condanna, per noi il condannato è fatalmente perduto, mentre per Dio la condanna è sempre unita alla misericordia. Per assumere un atteggiamento cristiano dinanzi ai difetti degli altri, ricordiamo, soprattutto in relazione ai figli di Dio, che essi sono ancora in formazione. Noi tutti siamo dei brutti anatroccoli. Solo nella vita futura saremo perfetti, quindi aspettiamo con pazienza, quella stessa pazienza che Dio ha per noi, che gli altri imparino a migliorare, perché per migliorare occorre tempo. Gesù disse: «Badate a ciò che udite. Con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi. E a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Marco 4:24-25. Questo avvertimento di Gesù ti insegna che se non hai pazienza Dio non ce l'ha con te. Se non sei misericordioso Dio non lo sarà con te. Se non sei benigno Dio non lo sarà con te. Se non saprai perdonare Dio non ti perdonerà. Se sei duro Dio sarà duro con te. Con lo stesso metro con cui giudichi gli altri Dio giudicherà te. E poi a te sarà richiesto di più perché tu conosci la volontà di Dio e sarai giudicato molto più severamente da Cristo. Ora che lo sai, sei ancora più responsabile di essere misericordioso. Quante volte durante la giornata mi vengono in mente le parole di Giacomo: «Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose». Giacomo 3:1. Sono due le categorie di persone che verranno giudicate da Dio molto severamente: coloro che conoscono la volontà di Dio e non la mettono in pratica, e coloro che fanno da maestri. Che certe sofferenze e prove nella nostra vita non vengano per queste ragioni. Non sta forse scritto: «Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi»? Dove sono i cristiani che riconoscono obiettivamente di portare le conseguenze dei propri errati giudizi? Possiamo noi pretendere da Dio misericordia quando noi non ne usiamo verso il prossimo? O peggio ancora, verso i fratelli in fede? Dio non fa differenza, non fa favoritismi. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. 1 Pietro 1:17. Chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Colossesi 3:25. Non è bene, in giudizio, avere riguardi personali. Proverbi 12:23. Eppure, nel profondo del cuore di tanti figli di Dio, abita una certa convinzione di essere diversi, che le cose andranno diversamente. Lo si impara quando capitano episodi molto tristi o drammatici. E proprio perché non si ha presente di essere creature come le altre, a volte si perde addirittura la fede. O si abbandona la vita comunitaria. Purtroppo la parzialità o il favoritismo sono malattie della quale la Chiesa non si è ancora liberata. È sufficiente leggere in Giacomo 2, 8-13 per comprendere come sia facile cadere in questo peccato. Se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge, come trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. Succede che un conduttore, quando sbaglia, non viene ripreso proprio perché occupa una posizione di comando, e così si formano i dittatori. A volte anche i figli dei conduttori vengono trattati diversamente e spesso diventano ragione di liti all'interno di una chiesa. Ho presente un conduttore che non approvava il matrimonio tra un credente e un incredulo, ma quando suo figlio si fidanzò con una incredula, il matrimonio misto lo ritenne lecito, perché, come egli si espresse, poteva essere occasione per la conversione della ragazza. Il timore dell'autorità è sempre presente nel cuore dell'uomo, sia che questa sia spirituale o civile. Non a caso il sacerdote Azaria andò dal potente re Uzia con 80 sacerdoti per riprenderlo, 2 Cronache 26-17. Ecco perché Paolo ordina Timoteo a non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da 2 o 3 testimoni. Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Lo ti scongiuro davanti a Dio, al Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose, senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. 1 Timoteo 5,19-21. Se Paolo invita Timoteo ad agire con imparzialità, ciò significa quanto sia facile cadere in giudizi parziali. Dobbiamo convincerci, e del tempo ce ne vuole. La condanna, la critica, il sentenziare non hanno mai aiutato nessuno. Anzi, se si getta del fango, anche se non arriva a segno, le mani rimangono sporche, perciò alla fine il danneggiato è sempre chi giudica. Le ingiurie, diceva un letterato francese, se non riescono a umiliare chi le riceve, umiliano profondamente chi le dice. Infatti, ho presente tanti credenti che hanno sparso frasi pesanti ovunque e cercato di colpire, ma alla fine i danneggiati sono stati proprio loro. Dobbiamo pure convincerci, e qui ne occorre ancora di più, che l'amore unito alla conoscenza risolve i conflitti fraterni. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. Proverbi 10 e 12. Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Proverbi 17 e 9. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. 1 Pietro 4:8. Il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Proverbi 19 e 11. È una gloria per l'uomo l'astenersi dalle contese, ma chiunque è insensato mostra i denti. Proverbi 23. E l'amore, il lasciar correre l'offesa, il non pretendere giustizia, il giudizio compassionevole che ci rende comprensivi, pazienti, capaci di sopportare, ma il pretendere sempre e voler far valere la propria ragione ad ogni costo non aiuta il prossimo a far sì che egli apra il suo cuore e si confida. Un giorno il sole e il vento fecero una scommessa su chi sarebbe riuscito a far togliere il cappotto a una persona. Il vento cominciò a soffiare, questo non dava segni di volersi togliere il paltò. Continuò a soffiare sempre più forte, ma l'uomo si stringeva nel paltò ancora più strettamente. Allora il sole con il suo calore scaldò l'atmosfera, e l'uomo iniziò a slacciare il cappotto. Il sole fece sempre più caldo, e l'uomo alla fine se lo tolse. Più le contrarietà erano forti, più l'uomo si stringeva dentro di sé, più le circostanze erano favorevoli, più l'uomo era disposto ad aprirsi. Gesù avvertì: «Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato». Matteo mezzogiorno 35. Con tale avvertimento Gesù messe in evidenza due cose. Uno, che ognuno di noi dovrà rendere conto di ogni parola, in greco rivelazione vana che avrà proferita. Cioè un parlare fuori posto o avere la presunzione di essere condotto dallo Spirito Santo quando procede dalla propria vanità mentale, capita più spesso di quello che si pensa. 2. In base alle nostre parole saremo giudicati o giustificati, quindi attenti alle professioni di fede, fatte alla leggera o per interesse, e soprattutto ai giudizi negativi su altri fratelli. Lasciamo dunque a Dio il compito di giudicare, perché Yahweh è un Dio di conoscenza e da Lui sono pesate le azioni. 1 Samuele 2, 3. Nelle assise celesti non si fanno i conti in maniera approssimativa o sbrigativa. Il giudice divino, cioè Cristo, Giovanni 5, 22, pesa ogni atto ed emette una sentenza dettata da un perfetto senso della giustizia. Si prende in esame ogni fattore mentale, morale, fisico. Ogni azione viene valuta riferendosi alle circostanze e all'ambiente in cui è stata compiuta. Si tiene conto della luce della quale eravamo stati dotati, della nostra capacità di discernimento, delle influenze buone e cattive a cui eravamo sottoposti, dei moventi che ci hanno mosso a determinati gesti, delle possibilità che abbiamo accolto o respinto, delle pressioni subite, delle conseguenze alle quali siamo andati incontro col nostro comportamento. Il giudice di tutta la terra fa la giustizia. Genesi 18 e 25. Piuttosto di giudicare, guardiamo come giudichiamo, perché tutta la legge e i profeti sono riassunti in questa ingiunzione: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Comprendiamo gli altri come desideriamo essere compresi. Offriamo agli altri la nostra comunione come noi desideriamo quella degli altri. Edifichiamo gli altri come vorremmo essere edificati noi. Perdoniamo gli altri come vorremmo essere perdonati. Onoriamo gli altri come vorremmo essere onorati. Sopportiamo gli altri come vorremmo essere sopportati. Doniamo agli altri come vorremmo che gli altri donassero a noi. Difendiamo gli altri come vorremmo essere difesi noi. Ci rallegriamo con gli altri come vorremmo che gli altri si rallegrassero con noi. Cerchiamo gli altri come vorremmo essere cercati noi. Giudichiamo gli altri come vorremmo essere giudicati. In definitiva, amiamo gli altri come noi vorremmo essere amati. Il diavolo è un distruttore. Egli opera nel mondo per distruggere tutti coloro che amano Dio e stanno facendo la sua volontà. Cerca degli agenti per il suo servizio anche tra i credenti. Non facciamoci ingannare, ma stiamo in guardia contro il giudizio condanna. Agiamo come edificatori e non come distruttori. Se ci amiamo gli uni e gli altri, siamo in grado di combattere uniti contro il diavolo. Attraverso la buona o la cattiva reputazione, a destra o a sinistra, il soldato di Cristo va avanti. La lode non lo esalta, gli insulti non lo schiacciano. Non si gonfia per le ricchezze e la povertà non lo deprime. E, al di sopra degli avvenimenti, sia lieti sia tristi, se Girolamo. Prendiamo sul serio la volontà di Dio e mettiamola in pratica. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Giacomo 5, 9. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 1 Corinzi 4, 5. Gli oggetti dei nostri pensieri. Abbiamo preso in esame fin qui la necessità di avere giusti pensieri, perché questi formano il nostro essere. Abbiamo pure considerato come la parola di Dio metta enfasi sulla necessità di nutrire pensieri buoni e redentivi. Forse uno dei brani più significativi in merito al nostro tema è ciò che

Così è anche nel fare. Quando penso a come aiutare il prossimo, se le vie non sono perfettamente regolari secondo i canoni della società, posso anche continuare a pensare a questa virtù. Quel qualche di Paolo dimostra che anche lui conosceva l'impossibilità della perfezione. Chi vuole essere perfetto in un mondo imperfetto troverà un perfetto problema di coscienza. Superabile, solo se si è abituati a giudicare rettamente. Infine, Paolo termina il suo ordine nel modo migliore. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Filippesi 4.49. Ecco come deve vivere un cristiano. Deve insegnare agli altri ciò che è giusto, ma deve terminare il suo insegnamento con una vita coerente con ciò che dice, al punto di porsi come un esempio di vita. La mia vita deve essere la mia predicazione, ciò che predico deve essere la mia vita. Solo allora proverò quella pace che viene da Dio e realizzerò che il Dio della pace mi aprirà le porte che devo attraversare e mi chiuderà quelle che non sono per il mio bene. Questione di fede. Quella fede mediante la quale mi sono buttato tra le braccia di Cristo tanti anni fa e quella fede che mi fa tenere ancora gli occhi fissi su Gesù, quale giudice che con un ultimo giudizio valutazione e giudizio meno condanna darà a ciascuno ciò che gli aspetta. Proprio l'ultimo. Giudicare nel senso di valutare e esaminare. 1. È possibile andare d'accordo con tutti? Perché? 2. Perché il vincolo fraterno è difficile? 3. Perché è indispensabile vivere in una comunità? 4. Perché anche se si prega per lo stesso soggetto si può essere in disaccordo? 5. Quanti significati ha il termine giudicare? 6. È sbagliato togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello? Perché? 7. Scrivi i 4 ostacoli che ci impediscono di avere un giusto giudizio. 8. Scrivi almeno 5 barriere che abbiamo nell'ascoltare. 9. Scrivi le 2 difficili qualità nell'arte della conversazione. 10. Quali sono alcune delle nostre contraddizioni? 11. Termina questa frase. Sono le valutazioni morali errate che dividono i cristiani, non. 12. Scrivi le 10 limitazioni che abbiamo nel giudicare. 13. Fai alcuni esempi come l'odio possa alterare i fatti. 14. Perché abbiamo idee sbagliate in merito all'amore? 15. Perché non è sufficiente amare? 16. Quando non è amore mandare giù o sopportare? 17. Perché può essere amore anche quando non ci si comporta secondo i canoni sociali? 18. Termina la frase «l'amore può ferire per…». 19. Perché l'amore non è un sentimentalismo? 20. Perché allora abbiamo i sentimenti? 21. Abbiamo considerato 7 casi nei quali i sentimenti ci ingannano. Citali. 22. Quando è che un credente può essere considerato maturo? 23. Termina la frase «esistono delle grandi professioni di fede che non scaturiscono». 24. Termina la frase «i grandi slanci di entusiasmo cristiano devono…». 25. Termina la frase «chi che non si esercita a lasciarsi indagare da Dio non ha il diritto». Giudicare nel senso di giudizio-condanna. 1. Esprimi la tua opinione sul giudizio-condanna. 2. In quali condizioni si trova un fratello offeso? 3. Come sono le liti tra fratelli? 4. Da parte tua vedi un fratello o una sorella oltre le sbarre che tu hai costruito? 5. Descrivi la differenza tra lo sparlare e il calunniare. 6. Chi fa torto la maldicenza? 7. La lingua è l'unico strumento che si affila. Termina la frase. 8. Come viene definita la lingua nella parola di Dio? 9. Perché le maldicenze si propagano in fretta? 10. Come si comporta il debole? 11. Come si comporta il forte? 12. Cosa hai imparato dal giudizio errato di Elia? 13. Cosa hai imparato dal giudizio errato di Eli? 14. Cosa hai imparato dal giudizio errato di Eliad? 15. Cosa hai imparato dal giudizio errato di Pietro? 16. E se un giudizio è, secondo verità, come devi comportarti? 17. Quali due categorie di persone verranno giudicate più severamente? 18. Come devi considerare i figli di Dio, dei brutti, termina la frase. 19. Dato che i fratelli e sorelle sono dei brutti, cosa devi fare? 20. Qual è un comune peccato nella Chiesa descritto in 1 Timoteo 5? 21. Con quale ingiunzione si possono riassumere la legge e i profeti? 22. Cosa ha prodotto in te questo studio? 23. Cosa ti è rimasto impresso maggiormente? Infine, indica i 7 pensieri atti a farci stare bene e far bene il prossimo, spiegandone anche i particolari,